Andare alla zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta. Io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto. Allora, ciao. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Volevo fare un appello a tutti quegli ascoltatori della zanzara, ascoltatori per caso li chiamo io, che ci rompono i coglioni a dire che è un programma volgare e tutte queste cose qua. Volevo fare un appello con tutta la serenità del mondo. Non ci è scassata la minchia, è cancellata in stazione. Questa è la zanzara. La zanzara ci sono parolacce per tutti. Quindi non scassate il cazzo e se non vi conviene cambiate stazione, ok? Per cortesia. Buonasera, qua parla Oreste da Rovigo. Allora vi dico questo. Sta attento Parenzo, non venire a Rovigo perché te prendiamo a peate sui coglioni, capito? Dite signorante, dite signorante, come il sucche che ho sull'orto, vedo capito? Ah, mi riferisco a quel deficiente che fa tanto difesa ai Rom. Se fosse venuto in casa tua, come chi sei venuto in casa mia, ti ga porta via i ori de me paura mare, ti ga porta via tutto, che lo capio. E dopo ti go denunciai, e sento cose che ha detto il giudice, che sei minorenni non puoi fare niente. E ora vorrei che venisse a casa tua, ignorante, de un bauco, de si un bauco. Cruciani, dite sì, un bravo toso, ma cavate via dai coglioni che il deficiente ha, perché quello è un buona. Se tu non vuoi andare a puttane, fai a meno di sposarti e vai dove... Vuoi andare a puttane? Vai a puttane! Vuoi farti incurare? Vai a farti incurare! Vuoi andare a trans? Vai a trans! Vai dove cazzo vuoi! E allora a questo punto non ti sposare e allora vai a fai il fraccio, vai a puttane, fai quello che vuoi. Se vuoi, io mi scopo donne di cui i propri mariti vanno a puttane! E a me non me ne frega niente. Là ci vuole l'anarchia. Caro David. Non ci sono grandi novità, i temi che tu proponi rimangono. Ma quale propongo? Non ho detto niente. Gli ascoltatori propongono, mi pare. Ma questa è la copertina, sempre, no? Questa è la copertina. Invece c'è una cosa molto grave. C'è una cosa molto grave, come sai, oltre 500 bambini vittime di violenza al coro del Duomo di Ratisbona. Addirittura quasi 100 subirono abusi sessuali. Qualcuno sostiene che il fratello di Ratzinger sapeva tutto di questa cosa orribile. Ma di queste notizie qua, non di questa gravità, naturalmente ne arrivano ogni giorno. Allora, non sarebbe il caso, caro David, la dico grossa, di sciogliere la Chiesa Cattolica? No, ma sì, sciogliamo la Chiesa. Impazzito, no, ormai ragazzi, sei una persona. No, adesso tu mi porti. No, sciogliamo. Siccome arrivano ogni giorno notizie, è chiaro che c'è un'associazione a delinquere a favore della pedofilia. Mi pare ma abbastanza chi? Evidente. Ma sono singole persone. Ci sono state c'erano connivenze, tutti sapevano tutto, per anni hanno taciuto, ne hanno parlato film, documenti ufficiali, serie, eccetera, ma come eccetera. Sei? Basta, ma come non... sei scusa, tu? Ma tu la mafia non la sciogli? Ma sì, ma che c'è? Sono... Ma la Chiesa è un'istituzione, ma cosa vuol dire? È evidente ma... che c'è stata una connivenza. Allora a questo punto sciogliamo, scioglietevi, basta, avete fatto troppi danni. Sciogliete tutto. Di fronte a notizie come questa, 500 bambini vittime di violenza al coro del Duomo di Ratisbona, non c'è che da chiudere tutto. Sciogliete questa associazione, sciogliete la Chiesa Cattolica, sciogliamo, non c'è più possibilità di recupero. Capisci che il danno fatto, accumulato, è talmente grave, talmente stratificato. Che cosa vuoi fare davanti a questo? No, spiegamelo tu, sciogliamo ma tutto. Ma come cosa vuoi fare? Ma sta già facendo, c'è il ma Papa cosa, ha preso già. Ma come si fa a dire? Ma io adesso sciogliamo, rimango alla tua... la Chiesa, sciogliamola. Ma tu, ma sciogliti tu, sciogliamo la Zanzara e continuiamo a pagare i conduttori, ma sciogliamo la Zanzara. Ma questo è un altro discorso da fare. Che c'entra. Questa è un grande porto di libertà, un grande porto. A proposito, io voglio adottare questo tipo di... No ragazzi, l'unica soluzione è questa. Ogni giorno vengono fuori cose, tu mi rimproveri che io dico sciogliamo la Chiesa. Scusa. Ma certo, ma mi pare una cosa talmente folle. La Chiesa è fatta di uomini, 500 bambini donne. Vittime di violenza, 500. Ma sì, ma non è che c'entra la Chiesa, c'entrano delle singole persone. Singole persone appartenenti a quale associazione? Ho capito, ma non è che per altro. Questo se c'è un problema da una parte. No, però mi ha fatto ridere una cosa che mi ha mandato un ascolto, adesso non c'entra niente. Sai niente, quegli annunci mortuari che ogni tanto si fanno ancora? Io non capisco perché la gente mette affigge per strada ancora gli annunci mortuari. Beh, quando muore un parente. Lo trovo una cosa di una barbarie. Soprattutto al sud. Sì, avviene non solo al sud, anche al centro-sud, diciamo, a nord è raro, effettivamente. È una cosa di una barbarie enorme. Perché devi mettere una cosa con la foto del morto? Comunque me ne è arrivata una, non so se sia vera. Un tale Bono Francesco, pace all'anima sua, naturalmente, il giorno domenica 16 luglio presso il civico ospedale di Palestrina è venuto a mancare all'affetto dei propri cari all'età di 97 anni. Per carità, 97. Bono Francesco, il marmista. Ripeto, non c'è nulla contro di lui, però senti cosa hanno scritto. Per sempre devoto a Benito Mussolini, ti giuro, hanno scritto così. Bono Francesco, il marmista, per sempre devoto a Benito Mussolini. I familiari tutti le danno il triste annuncio. Si svolgeranno il giorno, i funerali si svolgeranno il giorno lunedì 17 luglio, cioè ieri, alle ore 16 presso il convento Sant'Angelo. Arrivederci e grazie. La famiglia ringrazia. No, mi fa ridere il fatto che la famiglia è morto, in questo annuncio mortuario. Ti fa ridere. No, ti fa ridere. Mi è morto, fa ridere. Poverino. No, d'accordo, per carità. Cioè, ha tenuto a precisare una cosa: per sempre devoto a Benito Mussolini. Non fa ridere cosa sta cosa. Vuoi che infierisca io su questo no, 96 anni? Assolutamente no. Però i parenti che ci tengono a precisare questa cosa, cosa ci sarà che qualcosa dico? Che non funziona. Che cosa, no? Sì, tante cose, ma non farmi infierire. Che cosa vuoi che no, ti dica? No, non dico niente, non dico niente. Cosa vuoi che commenti? No, nulla, cosa nulla, assolutamente. Cose, cioè, delle cose sono incommentabili. No, soprattutto questa. Allora, la signora Boldrini, adesso io ho adottato questo tipo di politica. Lascio commentare a voi, perché alcune volte le parole parlano da sole. C'è una cosa positiva che voglio dire. Mentre la sinistra, chiamiamola così, ormai è praticamente usa le stesse parole della destra per quello che riguarda i migranti, eccetera, eccetera, la Boldrini, devo dire che da questo punto di vista è estremamente coerente. Infatti, di fronte allo Ius Soli, dice bisogna approvarlo assolutamente entro la fine della legislatura, altrimenti è un torto. Cioè, lei dice basta infingimenti, eccetera, è a favore dello Ius Soli e dice bisogna approvarlo, certo, no. Bisogna approvarlo. Dal suo punto di vista, io ovviamente non sono d'accordo, però dal suo punto di vista si mantiene coerente. Cioè, non è come quei buffoni della sinistra che dicono no, ma adesso ci vogliono le quote di immigrati, ci vuole il numero chiuso, lo Ius Soli non lo possiamo approvare, oppure non dicono nulla. Sentiamo la Boldrini. Dunque io mi auguro che il provvedimento sullo Ius Soli sia approvato entro la fine di questa legislatura, perché è giusto, è perché è necessario, e perché rimandarlo sarebbe un torto. La signora Boldrini. Allora, sempre la Boldrini dice, però, fa l'elogio del trasformismo. Fa l'elogio del cambio di casacca. Senti, Parenzo, è importante questa cosa qua, non ti distrarre. Non ti distrarre, che è molto importante questa cosa qua. Molto importante, senti. La situazione politica è molto fluida nel nostro paese. estremamente fluida. Ci sono gruppi che si sono divisi, ci sono stati gruppi che hanno perso alcuni deputati, tutto questo fa parte delle dinamiche politiche e io non trovo disonorevole il fatto che ci possa essere che un parlamentare o più parlamentari da un gruppo che non esiste più vadano in un altro gruppo o da un gruppo che ancora esiste decidano di andare altrove, anche perché appunto noi non abbiamo un obbligo, è la Costituzione che ce lo dice. Quindi non è sempre tutto sporco quello che avviene all'interno di questo palazzo. Beh, sembra perfetto, sembra ineccepibile. Bah, dai. C'è l'elogio del trasformismo, del cambio di casacca, è chiaro che lo puoi fare perché la Costituzione te lo permette, ma in questa legislatura in qua questo caso c'è più che mai condivisibili. C'è metà Parlamento che è passato da un partito all'altro. Il gruppo e misto uno è il secondo gruppo più numeroso appunto, della Camera, dai, ma mi vergogna, pare abbia detto vergogna, una cosa condivisibile. No, ma scusami però, adesso al dai, di là di tutto, su, non ma ha che bisogno dire? Della mia difesa. Che non è illegale, non la, è illegale dai. La presidentessa Boldin non ha bisogno della mia difesa, ma ha detto una cosa vera. Ma no, la cosa è questa, c'è un trasformismo, un passaggio da un partito all'altro che è una vergogna, dai, bisogna dirlo, è una vergogna, che poi non sia possibile impedirlo è un altro discorso. Però amici miei, voglio capire il signor De Magistris e l'amministrazione di Napoli cosa hanno intenzione di fare questa volta. O considerano gli inglesi e in particolare il quotidiano The Sun, il quotidiano The Sun, mi sembra di proprietà del signor Murdoch, se non sbaglio. Murdoch. Non so se l'abbia venduto oppure se è ancora suo. Sì, ancora sia suo. Non mi ricordo bene. Che considera Napoli tra i 10 posti più pericolosi al mondo. Il giornale inglese The Sun inserisce il capoluogo campano sulla mappa delle città borderline insieme a borderline, insomma, questo leggo su un giornale online, insieme a Mogadiscio, Raqqa, Caracas, Grozny, San Pedro a Sula che è in Centro America, St. Louis in America, Murder, Gangs. Ragazzi, questa è Napoli, quella che viene descritta dal Sun, non c'è niente da fare, una delle 10 città più pericolose al mondo, dice il quotidiano The Sun. Adesso che vogliamo fare? Volete denunziare gli inglesi, cari napoletani? No, però mi pare un po' eccessivo questo. A lui pare eccessivo. Mi pare eccessivo. A Caracas, voglio dire, come a Caracas c'è la polizia che scorta addirittura in alcuni quartieri le persone che ci abitano. Ci sono, cioè, non, il paragone è inaccettabile, ovviamente. Mi pare eccessivo. Cattiva pubblicità al nostro paese, per orgoglio nazionale. Mi auguro che anche il governo risponda. Sì, sarebbe giusto che il comune si costituisse parte civile contro il Sun. Ma stai scherzando oppure no? No, io non scherzo cioè, mai. Stai dicendo che il comune di Napoli farebbe bene a denunziare a il Sun? No, di più, costituirsi parte civile per danno, perché ovviamente i turisti inglesi che leggono quel popolare quotidiano potrebbero appunto essere invogliati a non venire, quindi un danno molto grosso, forte per il fai il portavoce di De Magistris. No, cioè, vuoi fare il portavoce di De Magistris? Ogni volta c'è il portavoce di... Penso questo, ma non mi interessa niente, lo dico. Certo, Napoli sono dei problemi, ma non si può paragonare quella città a Caracas, ragazzi belli. Su, dai, perché è un discorso. Becchi, professor Becchi, africanizzeremo l'Italia. Becchi. Senti. Noi possiamo regolare i flussi migratori, possiamo se non altro cercare di regolare i flussi migratori. Qui invece stiamo semplicemente dicendo capisce. È così, anzi dovremo saranno necessari ancora più africani, dovremo alla fine africanizzare l'Italia intera. I 200.000 ti servono come esercito industriale. Lei ha dei dati personali. Per far sì che raccolgano pomodori a 4 euro a giornata, super sfruttati. Allora, ecco dei cosa dati, ti servono i migranti. Posso è questo dire che vogliamo, questo è non solo traffico di carne umana, ma è super sfruttamento di esseri umani. Allora, e voi lo fate passare dopo come di che solidarietà, Becchi, aspetti, non ma solidarietà del cazzo, scusate. Vabbè, odiamo come la parolaccia mattutina di Becchi, vai guarda. Onde che chiudete, cornuti! Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presento La Zanzara. Meglio un giorno nella minoranza rumorosa che 100 nella maggioranza silenziosa. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. proposito di Islam, caro Parenzo, e di Arabia Saudita, ma l'hai letta la storia di quella modella? Sempre che la storia venga confermata, perché ormai bisogna stare attenti a tutto. Ci sono delle notizie false che vengono diffuse a piene mani ovunque. Comunque, questa modella pare che si sia fatta filmare in minigonna in un forte dell'Arabia Saudita, tra l'altro uno dei posti principali dell'estremismo religioso dell'Arabia Saudita. Adesso però è ricercata, cioè c'è questa immagine di questa modella, sembra sia una modella in minigonna che cammina e pare che la polizia dell'Arabia Saudita, siccome naturalmente andare in giro in minigonna in Arabia Saudita è proibito, le donne vanno in giro tutte coperte, la polizia adesso la ricerca, sta cercando di capire chi è. Questa è la differenza che c'è tra il nostro mondo e quel mondo lì, chiaro? Questo d'accordo, certo. Ah no, meno male. Oh, Salvini è andato a trovare il signor Scarpa. Ecco, infatti io questo, questo mi risveglia, mi fa arrabbiare da morire. Ti eccita no, questa no, cosa. Mi fa arrabbiare perché veramente ti faccio sentire gli audio pazzesca. Prima. Ti faccio sentire. Innanzitutto Salvini dice non è una visita politica. Ma farsi scusa, come Salvini, no? Però, e cos'è? Una visita, è andato al mare lì? Cos'è andato al mare? Non credo abbia fatto il bagno a Punta Canna, ecco, là dov'è, eccetera. È chiaro che è una visita politica. Tutto è politica quando uno si muove. Quando un leader di partito si muove, si fa fotografare, che cos'è? È una visita di cortesia. Ai vecchi si fanno le visite di cortesia, a chi è malato si fanno le visite di cortesia, no al bagnino fascista. Anche quella è politica, Comunque, quando Salvini si muove, quando uno si muove, è chiaramente politica. Se ma vai certo. lì, quella è stata al centro di una polemica sul ma fascismo, certo. eccetera, eccetera, è chiaro che è politica, no? Questa, caro Salvini, è una cazzata, vai. È una visita politica? No, è una visita a sostegno di un'attività professionale che dà lavoro a decine e decine di persone. Non mi interessano le idee di questo, di quel bagnino, di questo o quello stabilimento balneare, mi interessa che in Italia si possa fare liberamente impresa e che le idee del passato non vengano processate. No, tra l'altro è lo stesso Scarpa che glielo chiede, ma è una visita politica? E lui dice no, non è una visita politica, ma non bisogna processare l'idea del passato. Già quando dici questo è chiaro che è una visita politica. Tu dici che Salvini sfrutta tutto, qualsiasi cosa si insinua, come andare per esempio nel porto di Civitavecchia, no? Ma no, vabbè, ma quello, cioè, quello ormai è chiaro, no? Cioè... No, ma senti questo Scarpa, perché Scarpa dice a un certo punto... Scarpa, mi bacio le scarpe, Scarpa, tra l'altro, che cosa aveva detto prima di accogliere Salvini? Cosa aveva detto l'altro giorno? Senti. Salvini vuole pagare le spese? Ma che cazzo me ne frega di Salvini? Me le pago io le spese. E che spese devo avere? Non ho fatto un cazzo. Le spese devo avere, mica capito io. Prima dice che non gliene frega un cazzo di Salvini, poi lo ospita, vabbè. Bisogna aiutare i poliziotti che devono usare il manganello, Scarpa, senti. Mi ha fatto molto piacere che Salvini venga qui. Mi ha fatto molto piacere perché è una persona seria. È una persona seria, di conseguenza io dico che qui, cari ragazzi, bisogna aiutare i nostri poliziotti che non possono difendere i nonni, i genitori nostri, hanno le mani legate, non possono difendersi, volete capirlo o no? Devono essere liberati e devono poter usare il manganello. Beh, caro mio, questo Scarpa ha un po' di nostalgia, no? Beh, per, per i metodi spicci devono essere liberi di usare il manganello, sì, ma, Scarpa. Ma hai capito che questa cosa qui mi rende ancora fascista, più convinto del fatto fascista. Che ci vuole una legge ancora più dura per punire questa roba. No, dai, senti questa cosa, senti ancora. Essere fascista vuol dire essere per ordine, pulizia e disciplina, sono orgoglioso di esserlo. Cioè lei si sente fascista? No, io mi sento per queste tre cose che le ho appena elencato e se questo riconduce al fascismo, allora sono orgoglioso di esserlo. Quindi liberiamo i nostri poliziotti, Io sono abbastanza triste però perché leggo da qualche parte che la regione dove abito, la regione Lombardia, vuole fare una legge che obbliga i clienti dei centri massaggi a lasciare nome e cognome. Cioè siamo veramente allo stato di polizia, cioè i clienti dovranno lasciare i loro dati ogni volta che entreranno in un centro massaggi per certificare il trattamento ricevuto. Ah, certo, ti rendi conto, no? Giustissimo, cioè ormai sono uno d'accordo. Non è più libero di andare in un centro massaggi a farsi fare un massaggio, magari un happy ending da cioè che significa sostanzialmente giusto una pippa, che sia così. Da una cinese o anche altro, perché vieni monitorato. Giusto. Cioè, ma giusto che cosa, ragazzi? Giustissimo. Ma basta, dai. Come quando basta. Vai in un albergo, no? Quando tu vai in un albergo, devi lasciare la carta d'identità e loro ti registrano. Vergogna, vai in una spa, lasci il nome, ma è giusto, così finalmente finisce questo. Ti voglio fare ridere con un ascoltatore di radio, con un'ascoltatrice di Radio Padania. Senti questa ascoltatrice, ti prego, ma ascolta. C'è ancora bene. Radio Padania? Ah, è online, sì, è online. Va in onda Radio Calabria. Vabbè, ma non è importante. Questa ascoltatrice, ti prego, ascolta e ascoltate attentamente. Satana è forte e vuole farvi rivoltare tutti contro Dio, perché io ho fatto una caduta in bicicletta giorni fa e non sono andata assolutamente in ospedale, è un mese che soffro, però dei medici non mi fido, perché Padre Pio diceva: è meglio un topo fra due gatti che un ammalato fra due dottori. Quindi confidare sempre in Dio e di se stessi. Cioè, questa è caduta dalla bici. E dice che Satana è forte, non è andata dai medici, non è andata dai medici perché Padre Pio, Dio, è vero che Padre Pio diceva queste cose, non lo so, sì, può darsi, ne diceva tante di cose, ma io voglio riascoltare con attenzione, riascoltiamo con attenzione. Satana è forte, ascoltatrice di Radio Calabria. Strano che non abbia chiamato da noi questa lucida persona. No, senti, senti, io la vorrei avere ospite tutta la vita, senti. Satana è forte e vuole farvi rivoltare tutti contro Dio, perché io ho fatto una caduta in bicicletta giorni fa e non sono andata assolutamente in ospedale, è un mese che soffro, però dei medici non mi fido, perché Padre Pio diceva: è meglio un topo fra due gatti che un ammalato fra due dottori. Quindi confidare sempre in Dio e di se stessi. Allora, non ho ben capito il collegamento tra Satana è forte e la caduta nessuno, dalla bici. Nessuno. No, nessuno, ma la cosa incredibile è che questo è un mese che c'ha male, ma non va dai medici, amico mio. Se poi crepi, amica mia, se poi crepi sono cazzi tuoi, non venire a rompere i coglioni al Servizio Sanitario Nazionale, poi. Certo. E dai. Eugenio da Milano, vai Eugenio, vai. Eccomi, Giuseppe. Dimmi Eugenio. Va bene che voi siete una radio, diciamo, provocatoria, ma la notizia che avete dato, sì, giustamente, di 1500 casi di violenze sui minori in Germania, quando io l'ho sentita alla radio oggi, specificavano di cui 70 violenze sessuali. Ah, beh, cioè allora va bene. Violenze tipo, non so, li mettevano in ginocchio sui... non so, sulle biglie, sui boh, allora va bene, fiori, io ho detto so. 500 bambini vittime di violenza, 67 subirono io. Abusi sessuali o giù di lì, ma qual è il problema? Non ho capito, qual è la differenza? Il problema è che uno sentendo solo 1500 abusi potrebbe essere che pensa ma perché invece gli schiaffi vanno bene? Sessuali? Gli schiaffi o la violenza va bene invece? Gli schiaffi o la violenza va bene? No, io non dico niente, ma dico solo che bisogna specificare. Sì, ma non ti preoccupare, abbiamo soltanto 70 sessuali, soltanto, capisci che dice Eugenio, soltanto Alcide dalla Alcide dalla provincia soltanto, di Genova. Però non è un buon motivo Alcide per dire chiudiamo la chiesa cattolica, è una follia. Qualcuno si chiama ancora Alcide, vai. Vai. Eccomi qua. Dimmi, sì, veloce, sì, veloce. Alcide. Vai. Veloce. Allora, secondo me signor cioè dottor Giuseppe Cruciani, lei ha ragione in merito alla chiesa cattolica, nel senso abolirla, ecco un altro. Ma non solo abolire la Chiesa cattolica, ecco un pazzo. Abolire tutte le forme di religione, perché no, quello non è un altro discorso, abolire le forme il conflitto tra la gente, conflitto. Con me sfondi la porta aperta. Naturalmente, forme di religione. Naturalmente non si può fare per legge, non si può fare per legge, amico mio. Ci vuole un lento processo, come dire, di ma liberazione Anzi, dalle religioni. Ma c'è una ripresa del senso religioso. Ma cosa dite? Purtroppo, ragazzi, cosa la gente pensa a queste cose. Pensa a queste cose all'aldilà, a una salvezza. Vedo quella signora che cerca Dio e non si fa curare. Fermi, vabbè, tutti, ma che fermi tutti. La Zanzara. Cruciani, sei il solito cazzone che non sai un emerito cazzo, il giornale che ha detto quella cagata, infilato nel culo, coglione. Guarda che in Milano ci sono dei posti a Milano che è molto più pericoloso di Napoli, cazzone. coglione, non sai un cazzo, parli perché c'hai solo il fiato da buttare fuori, hai le orecchie attaccate al cervello, stupido, mago pezzi e merda. Ma non capiscono, scusami David, perché se la pigliano con me? Scusa, un giornale britannico, sai, chiamasi The Sun. Perché loro... dice, sostiene, sì, argomenta, sì, certo, sì, in maniera provocatoria, non c'è dubbio, mette Napoli tra le 10 città più pericolose del mondo, sì, e questo signore, ma non lo so, sarà una stupidaggine, come dici tu. Com'è una stupidaggine? Ho capito, ragazzi, però non è che uno viene... Non, no, hanno messo... Poi se scusami, la prendono con te messo... perché tu non dimostri grande amore per questa però, città, scusami, che no, ha mille problemi. Ma non è vero, ma io... E poi bisogna dire una cosa, sono un po' suscettibili questi napoletani. Dai, questo io voglio dirlo con grande affetto, diciamolo, e amore. Dai, diciamolo. Credo che alcuni napoletani, cioè la minoranza, cioè, esiste rumorosa, uno sportello Difendiamo la città, l'onore della città. Vabbè, una questo... cosa istituita dal comune di Napoli. Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa parliamo? Sono un po' suscettibili. Facessero causa al SAN adesso, sì, si muoverà all'ufficio certo, legale. Senza dubbio. Causa a morte. Sei d'accordo? Sono d'accordo a fare costituirsi parte civile il comune. Cioè, vogliono togliere soldi. Può darsi pure che le casse del comune di Napoli possono, sì, essere messi a posto dal signor Murdoch, per perché esempio. Non si può paragonare Napoli a Bogotà, dai, questo, o Caracas, qual è l'altra città? Caracas, dai ragazzi, beh, amico mio, certo, però infatti non è la prima quanto città. Tempo è che tu non vai a Napoli? Ma non lo so, amico mio, io certo, se vai a Caracas scendi e ti tagliano la gola, non c'è dubbio. A Napoli a qualche cliente, a qualche turista è successo di arrivare rapina, e di essere scippato, perché sì, ah, qualche piccola, sì, però non hanno messo cortina d'ampezzo tra le città, tra i 10 città più pericolose al mondo, scusami, certo, no, non no, hanno messo, no, Ortisei, come dire, no, esatto, certo, no, non hanno messo, non hanno messo Bergamo, nemmeno Torino, non hanno messo Bergamo, Bolzano, esatto, certo, hanno certo, messo certo. Napoli, sarà cattiva stampa, sarà colpa, no, di pensa, no, non hanno neanche messo Palermo, qualche anno fa probabilmente avrebbero messo una città come Palermo, naturalmente. Ecco l'altro, lì, polacco. Allora, voglio farvi risentire quello intanto, che... Intanto, col tuo permesso, mi accendo una sigaretta, guarda, voglio dirti questa, questo. Questo, informiamo subito le autorità civili della 7, che sì, negli studi della 7, negli, ecco, uffici, no, della 7, negli uffici della 7, il signor Parenzo, no, si sta accendendo una sigaretta. No, ma lo possiamo dire, in un'area, tu sei come Barisoni, tu sai che Barisoni, fino a poco tempo fa, signor Barisoni, fino a poco tempo fa, non so se adesso lo fa ancora, andava nei bagni di Radio 24 a fumare, un delatore sei, andava a fumare liberamente. Tu sei quello che durante la seconda guerra mondiale avrebbe denunziato i partigiani. Cioè, sei così tu. Sei quello che sai, perché? Quelli che non fanno la guerra, non prendono posizione, ma denunzia, dice lì è nascosto un partigiano, vai. No, così sei uguale. Perché uguale. Mi devi paragonare perché a un sei delatore. Un delatore, una delle figure più tragiche, più brutte della storia. Delatori. Allora ragazzi, il sindaco di Empoli si chiama, come sapete da ieri, Barnini, esponente del Partito Democratico, nuovo idolo di Parenzo. Dopo aver multato un signore di Fucecchio di 52 anni semplicemente perché è andato a Mignotte, ieri chiamata dallo stesso, alcuni dicono che sia stato un nostro scherzo, io smentisco nella maniera più assoluta, cioè il signore di Fucecchio ci ha mandato una registrazione in cui ha chiamato, non so come abbia avuto il numero, il sindaco di Empoli, la signora Barnini, sì. La quale signora Barnini, da una posizione secondo me assurda, anche moralistica, dice lei non doveva andare a prostitute, ha sbagliato. Sì, certo. È giusto che riceva la multa a casa, dove magari la moglie la incrocerà questa multa, e dopodiché saranno cazzi suoi, lei però ha sbagliato perché non doveva andare a prostitute. Ora, che un sindaco si metta a dire a un semplice cittadino che lei non deve andare a prostitute, questo sinceramente mi sembra una cosa eccessiva, una posizione parenziana, ma Parenzo fa il giornalista, mentre la signora, lo speaker, fa il presentatore TV, il conduttore, la signora Barnini fa il sindaco, certo, e non è che un sindaco può dire no amico mio, tu non devi andare a prostitute, e no, tu al limite puoi dire non puoi rompere i coglioni al... E poi scusa, quale sarebbe la decenza pubblica, l'intralcio al traffico? Ma non succede, questi si sono appostati là dietro, hanno mandato delle persone, dei vigili in borghese a scoprire se questo trombava o no, ma ti pare normale? Ma c'è un decoro pubblico, ma non dai, c'è nessun decoro, sul decoro ragioni? Pubblico ma è la vergogna della vuoi? Politica che spreca il tempo, e questa è la vergogna, questo è indecoroso, che la politica che spenda vuoi? Tempo per queste cazzate, questo è indecoroso. indecoroso, non le, quelli che vanno a puttane. Ma che questo mondo è indecoroso. Vuoi? Ma che mondo hai in testa? Ma nessun è una mondo, cosa il mondo della libertà, il mondo della libertà, semplicemente il mondo della libertà. Sindaco, si rende conto che lei rischia di rovinare la mia famiglia? Io volevo pagare subito la multa. Credo che sia consapevole che quello era a fare e non lo doveva fare. Mi senta, sindaco, mi senta. Chi va a prostitute salvaguarda la famiglia. Noi andiamo ma a prostitute. Questa filosofia, mi perdoni, ma io non la posso, non la posso accettare. Dovete mandare verbale a casa, così mia moglie viene a sapere tutto. Ma se... lei si preoccuperà di non fargliela vedere, mi perdoni, se trovava il tempo di andare a prostitute, troverà anche il tempo per fargli vedere. Ma sta scherzando, ma sta scherzando, sindaco. Perché deve mandarla a casa? Sono fatti miei, certo, la nostra sono famiglia. Fatti suoi nella misura in cui lei si organizza per fare le cose in luoghi che non offendono il decoro e l'ordine pubblico. Ma che decoro? Ma chi offende? Così? No, mi perdoni. Come non ha fatto così? Mi dispiace dirgli che questo diventa un problema pubblico invece che un problema privato. Ma lei pensa che la multa la faccia per guadagnare? O pensa forse che la multa serva a fargli intendere non ci deve più andare? Perché se no non ha capito. Gaetano da Napoli, poi Francesco da Brescia e altri, vai Gaetano, vai. Cruciani, sì. Sei un infame e un vigliacco tu. Sì, sono infame e un vigliacco. Un inizio sobre. Perché? Dimmi. Te lo dico perché. Dimmi. Perché hai letto l'articolo del Sun, sì? Che ci sta, quello ha scritto un articolo, ha tutto il diritto di scrivere quello che vuole, sì. Giusto? Dunque? Subito l'appoggio tu no, l'appoggio, nessun appoggio, io l'ho appoggiato, ho raccontato. Senti, ora parlare. Ma stai zitto l'ora. Cosa, cretino? Cosa? Testa di cazzo. Ma cosa? Stai zitto? Stai zitto cosa? Stai zitto? È arrivato qui il duce, detto, il nuovo duce della zanzara. Non se ne sei neanche reso conto. Hai detto, dopo che hai detto, rassegnatevi, non c'è niente da fare. Godevi in questo articolo. Ma no, rido, non godo, rido. Come quell'altro Freddi che prima muore meglio è. Scrive, no, questo è grave. Si bruciano da soli a Napoli. Questo è grave. Si bruciano da soli. Perché non ritira quello che hai detto, vigliacco. Ritira quello che hai detto, vigliacco. Hai curato la morte a una persona. Vergognati. Vergognati. Devi vergognarti. Perché? Devi vergognarti per quello che stai dicendo. Devi vergognarti. Si bruciano da soli. Che titolo è? È un titolo di un giornale. Tu stai curando la morte a una persona. Vergognati. Vergognati. Perché non l'ha scritto su Pistoia? Perché non l'ha scritto sulle cose? Vergognati. Non mi interessa. Vergognati. Stai curando la morte a una persona. Stai curando. Si bruciano da soli, che vuol dire? Vabbè, sei un cretino, tanto sei un emerito che non mi voglio nemmeno arrabbiare. Io sono un cretino. Sei un imbecille. Si bruciano da soli. Noi siamo vittime della camorra. Sai che cosa sta accadendo qui? Vittime e complici. Vittime cosa? E complici, vittime complici e anche cosa? Complici. In io alcuni casi, in alcuni casi complici, in alcuni casi complici. Beh, certo, secondo me che lo dico io, lo dicono montagne di libri e di studi, ma amico di mio. Cosa? Dai. Ce l'hai in testa le montagne, ma di merda. Le ma montagne cosa? Ce l'ho in testa che fra poco andrò in montagna. Sì, questo è vero, ce l'ho in testa la montagna. Fra poco andrò a fare escursioni in montagna. Escursioni in montagna. Sano di mente. Bravo Parenzo, appoggi questo tizio che dice che Feltri deve morire. Che ma se la guarda di morte naturale, ha campato tanto, questo sto dicendo. Che c'è di no, devi vergognarti, devi vergognarti, ti devi vergognare, ti devi vergognare. Devi vergognarti per quello che hai detto. Una cosa un po' eccessiva oggettivamente. Non gli sto dicendo niente, sto dicendo che no, adesso il coniglio ha paura di quello che ha detto. Adesso il coniglio prima muore meglio è, hai detto. Prima muore meglio è, vergognati. Vergognati. Vergognati. Ha fatto già troppi danni. È un infame. Poi? Come sono infame anche tu, anche un vigliacco. Sì, perché io non sto godendo, sto ridendo. Sto ridendo perché? No, ma a me non me ne frega nulla. Io sto ridendo per un motivo molto semplice. Ma che articolo ha fatto il No, Parenzo l'ha criticato. Io ho semplicemente preso atto del fatto che l'hai il San goduto sopra, no, ho goduto, mi sono messo a ridere detto. Perché aspettavo questo tuo intervento. Ah, aspettavo no il tuo intervento, domani. La telefonata tua, la telefonata del napoletano che invece napoletano. di ridere sopra questa cosa. Ma quello non lo so, può darsi. Quello può darsi, può darsi. Con due master. Sì. E chi se ne frega? Ma tu ma le palle due master. Napoli, due ma la dovete smettere. Giù siamo le mani da turisti. Allora, scusi, mi devi dire, che articolo è? Siamo pieni di turisti da due anni. Non lo so, amico mio, prenditela. E la gente viene a fare i amico mio, prenditela col San. Perché? ti do l'indirizzo, ti do l'indirizzo mail sopra. Se vuoi, vuoi l'indirizzo mail thesun@uk.com. Vai. Ma ne frego un cazzo, vai, rivolgiti al Sun. Rivolgiti al San. Tu sei un lacchè di feltri. Io sono un lacchè. No, non è il mio padrone. No, per fortuna non ho padroni, amico mio. Non ho padroni. Tu dove lavori? Tu dove lavori, Gaetano? Dove lavori? Io. Gaetano, dove lavori? Io non ho un'azienda, sono un impiegato. Non ti devo dire. Ah, tu hai un padrone allora. Certo, qual è il tuo padrone? Uomo libero sono. Chi è il tuo padrone? Sono un imprenditore. Che c'è di male? Chi è il tuo padrone? Il comune di Napoli? Chi è il tuo padrone? Ma che comune di Napoli? Che cazzo mi frega? Non lo so, non è una domanda. È una domanda, punto interrogativo. L'onore di Napoli, vai a difendere. Fai un esposto al comune, là, allo sportello, per difendere l'onore della città. Meno male, lo vedi che ci troviamo. Vergogna, mettiti in ginocchio su sta cosa di feltri. Chiedi perdono. Inginocchiati immediatamente, umilmente di fronte alla zanzara, mani giunte, chiedi perdono, mani giunte, è un simpatico quotidiano che alle volte fa delle campagne un po' eccessive. Però è un quotidiano, noi siamo per la libertà, noi della maggioranza silenziosa siamo per la libertà di stampa, quindi il critichiamo. Sì, ma adesso non fare il professore di fronte a questo che ha augurato la morte a Feltri. Fai il professore, ma certo, ma quello è gravissimo, vigliacco anche tu. Perdonami, equità. Questo vuole equità. Augura la morte alla gente e chiede equità. Chiede equità, questo qua. Augura la morte alla gente che muoia il più presto possibile. E adesso chiede equità quello che c'ha i master. I master. Ma che master c'hai? Tu i master ce l'hai nel coso. Il master è quello che ti frustra a te, forse. C'è uno che ti frustra. Il master. Non ti viene la battuta. Il master è quello che ti frustra, forse. Per carità, cosa legittima essere frustrati da un master, per carità. Certamente, però. Un lavoro, sono tranquillo, ma il tema non è questo. Io non contesto il titolo Napoli si brucia da solo. Mi aspettavo da un giornalista di altissimo livello. Chi era sindaco di Napoli prima di De Magistris? Ma non Chi era? Prendi tempo, buffone. Non sai un cazzo, fermo lì. Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Parenzo, io sto venendo a Roma, posso venire a trovarti alla 7? Beh, caro David, la signora Elena. La famosa signora Elena, però ragazzi, ma mi mettete in una condizione di difficoltà assoluta in questa trasmissione. Cioè, create dei dossier, fate delle non c'è nessun dossier, questa è una invadita di te, abitante in Milano, che sembra stia venendo, non so se oggi, domani. Ma quella con la cavigliera? Sembra di sì. Sì, mi sembra di sì. Che Parenzo, quando vuoi. Ma cambia il mondo. Francesco da Brescia, vai Francesco, dimmi. No, quindi tutti sono i benvenuti alla sette, figuriamoci. Dimmi. Ciao, mi senti? Sì, dimmi. Francesco, dimmi. Io volevo intervenire, no? Intanto devo fare complimenti a Parenzo, stranamente. Perché si è moderato negli ultimi giorni con i suoi termini. In che senso? E questo mi fa piacere. Nel senso che è diventato più dolce, più ostinato, non è più cattivo come gli altri giorni. Questo non è buono, perché vuol dire che si sta ammalando di qualcosa. Comunque, io volevo intervenire. Ma sta ammalando lei? Non mi sta ammalando di niente. No, ammalando nel senso buono, nel senso che magari. Ma quale senso buono è se uno sta ammalando? Che sta scherzando? Ma sarà malato lei in testa, sì, sicuro? Sicuramente sono malato di mente. Io di fatto volevo intervenire per il fatto, per il fatto delle mignotte, no? Sì. Siccome ecco, io sono qua, ma ti rendi conto? Io volevo intervenire. Ma in quale altra radio uno telefona per dire voglio intervenire? Questa è una cosa che mi manda i matti da sei anni a questa parte. Ma come fa uno a telefonare? Come a dire, io comunque volevo parlare di mignotte, ma cosa vuol dire? Tu sei un professionista di cosa? Non ho capito. Della figa. Beh, questo è buono, anche questa questione. Ma cosa della figa, chi mi conosce lo ma sa che vuol dire professionista? Cosa vuol dire? Ma scusi, sento del merito, ma che vuol dire? Scusa, posso esprimermi? Professionista vuol dire che io quando c'è la partita IVA di... No, sta bravo un attimo, fammi parlare. Ho avuto un sacco di donne nella mia vita, le ho corteggiate, a un certo punto ho capito che è inutile. Molto è bene. Inutile perché questa roba qui ti porta all'esaurimento della tua scorta psicologica. Allora cosa è successo in me? Che vuol dire scorta psicologica, scusa, mi spiego. Nel senso che tu fai bravo ragazzo, sei, ti prefiggi la meta di avere una famiglia, questo, quell'altro, poi dopo la donna ti tradisce perché tu non soddisfi. Adesso non è che sia sempre così, amico mio. No, cioè, no, non è sempre mettiamo così. C'è anche l'uomo che tradisce, c'è soprattutto l'uomo che tradisce. No, diciamo, io sono un traditore di nascita. Allora che vuoi, scusa, non ho capito. Quale sarebbe? Ma no, cazzo, scusa, ti contraddici da solo. No, ma ascolta, vabbè, può anche essere, però sì, quello che voglio dire sei malato di mente, l'hai detto tu. Quello che voglio dire io, a un certo punto non voglio più tradire nessuno e sono diventato un puttaniere professionista. Questo è poco, grazie per averci informato di questa cosa, veramente, allora, grazie. Siccome vado a puttane un giorno sì, un giorno pure. Assolutamente, intervenivo per dare scontro a quell'ascoltatore che dice perché ti sei sposato. Ma io non mi voglio sposare, io non sono sposato. Ma scusi, perché? Però, caro, mi perdoni, 19:37 di una giornata qualunque d'estate, una delle ultime non della Zanzara prima della chiusura estiva. Le chiedo denunciare. Scusa, ma non denuncio nessuno, ma le perché chiedo scusa. Denunciarti, scusa. Che cosa l'ha spinta a telefonare per parlare per raccontarci di la sua esperienza di puttaniere professionista? Esatto, è perché quando una puttana che tu gli lecchi la figa, ti dice ma lei è uno schifoso, meglio che una donna. Io sono soddisfatto. Ma no, vabbè, questo adesso, scusami. Ma lei è una persona schifosa. Non ha importanza quello che pensi. L'importante è che sono felice io. Perché vabbè, per ma me questo nella cosa vita, c'entra, l'importante però. È sborrare. No, basta. Vabbè, mamma sei un coglione. Mia, sei un coglione. È veramente un povero sei imbecile. Veramente un cretino. Io l'avevo già intuito all'inizio. No, già è veramente all'inizio un cretino. Avevo è veramente un cretino. Mariano da Piacenza. Vai, Mariano. Ciao a tutti. Ragazzi, esistono anche i cretini, eccetera. È andato bene fino adesso. È andato bene. Ma è un malato di mente. Ma era andato bene, poi è esagerato. Ma dove è andato? Dove è andato? No, era bene, andato bene, dove? Diciamo dire, nel suo aveva fatto, aveva anche dato un contributo, diciamo. No, no, poi crollato così, che vuoi fare? Mariano, vai, dimmi. Ciao, buonasera dimmi, a tutti. Ciao, prima di tutto, io ho chiamato per un'altra cosa, però volevo prima dissociarmi da napoletano riguardo a quel compaesano di Napoli che augura la morte a Feltri. Questa è la prima cosa che voglio dire. Seconda cosa... Da detto alle forze dell'ordine, occhio a guardare anche sui dati del Ministero dell'Interno sulla microcriminalità delle città, Milano, Roma, Napoli. No, ma certo, ma nessuno dice che le altre città, noi stiamo discutendo un po', scherzando su una cosa che, di cui però non abbiamo nessuna responsabilità. Cioè la questione è molto semplice, un quotidiano britannico ha pubblicato questa roba qua, ma che colpa abbiamo? Non ha, ripeto, non hanno messo, caro Parenzo, non hanno messo altre città. Che come mai hanno messo Napoli? Qualcuno si vuole interrogare su questa cosa qua? No, ma io sono allora, dai, in questa mappa, Napoli tra i 10 posti più pericolosi al mondo, De Magistris si dice sono superficiali. Non io dice quereliamo quelli, perché non dice quereliamo quegli altri stavolta? Io dico da napoletano basta col vittimismo. Comunque, io ho chiamato per un'altra cosa. Dimmi. Riguardo al coro di Ratisbona, lo scandalo uscito, nessuno mette in dubbio quello che è successo. Però vi voglio porre una questione. Qual è la questione? Secondo voi, come mai è uscito proprio adesso, dopo che Benedetto XVI, durante l'omelia del cardinale Meissner, uno dei quattro dubbi? Vabbè, ragazzi, però adesso non è che ci possiamo mettere a fare la dietrologia su questa roba qua. Non lo so. No, ma la cosa principale è vero o non è vero che sono stati che sono stati violati questi bambini, sì o no? Benedetto XVI. Ma vogliono quello se zittito da solo, Benedetto XVI, quando si è dimesso da papa, amico mio, dai, su. Angelo da Napoli, ti abbraccio, Mariano. Angelo da Napoli, vai, Angelo. Ciao Cruciani, buonasera. Dimmi, dimmi. Ciao. Senti, io da buon napoletano rispondo in controtendenza, cioè nel senso, secondo me, ora non lo so se è tra le 10 città più, più pericolose al mondo, sì, però sì, secondo me la criminalità c'è. Questo non è che adesso ci vuole la tua telefonata. Grazie, grazie, grazie di questa telefonata, grazie di questa informazione. No, ha detto una cosa illuminante. Anche perché io ho vissuto in altre città per lavoro e comunque... Ma io non so se possa essere paragonata a Grozny, a Karachi, eccetera. No, questo è il punto. Ma questo non lo so. Classifica mette insieme... Ok, ma perché mettono Napoli? Spiegami, per pregiudizio, per ignoranza, ma per quale motivo? Ma hanno un po' di pregiudizio sicuramente, come ce l'avevano i tedeschi quando mettevano... Stai dicendo che il Sun, giornale inglese, è un giornale... Come anche i giornali italiani. È un giornale del no, cazzo. Questo non l'ho detto perché non uso questa parola, ma voglio dire. Non usi questa parola, che parole usi? Questa, cioè, un giornale... questo, allora, ha ragione De Magistris quando dici che sono superficiali. Ha ragione De Magistris. Sono dei superficiali, come certo, ma ovviamente come fai a paragonare Napoli a Caracas? È una classifica fatta male, fatta coi piedi, fatta per un quotidiano popolare. Ma infatti, se non ero, la classifica diceva che è la prima città d'Europa, non la paragonava a Caracas, però è la prima città d'Europa. Esatto, bravo, non c'è nessun paragone. È la prima non c'è città nessun paragone. È una delle città più pericolose del mondo. Dice una delle città tra le ma, città no, senza fare classifiche tra le città, esatto, tra le città esatto, però ma, in Europa ma mettono del Napoli. Danno che fa questa cosa non lo so, per amico tutti mio, gli inglesi non lo so il che danno che fai. Beh, agiscano, facciano, contrastino questa cosa, non la propaganda, la realtà, perché qualcosa di vero ci deve essere, no o no? Assolutamente sì, assolutamente. Bisogna vedere come sì, vengono fatte queste classifiche, ciao, poi dai ciao, su ciao. Diciamo. Dai, quel Cruciani lì è un minchione, è un provocatore, non fa altro nella vita che stuzzicare gli altri per avere un ruolo in TV o in radio, non è nessuno, cioè è un nulla facente, è un verme della società, è una piattola, è una sanguisuga, per favore ascolta di meglio, dai. E comunque ed è ovvio che è da sposare la posizione di quell'altro tizio che non conosco, ovviamente con le giuste cautele, ci mancherebbe, ci mancheresse, come dice Pancio. Allora, abbiamo in diretta con noi uno che conosce bene la Gran Bretagna e ci può spiegare, per cominciare, poi parleremo di altro, una delle persone più eleganti della televisione italiana. Bravo, una delle persone sì, anche, come dire, fortemente a favore dell'immigrazione in Italia. Dunque attirerà sicuramente, beh sì, io l'ho sentito più volte. Una posizione molto ragionevole, l'ho sai. L'ho sentito più volte essere a favore sì, ma dell'immigrazione. Ma io ti voglio dire una cosa, prima sì, di presentare questo grande personaggio che ha fatto la storia della televisione e del giornalismo, e lo dico senza ironia. E mettiamo un po' di cultura in sta trasmissione. Il grande Alessandro Manzoni scrisse sì, il sì, buon senso se ne stava nascosto sì, per paura del senso comune, scriveva Manzoni. Ma questo che c'entra adesso? Oggi scusa, c'entra perché siccome oggi il senso comune sembra andare da un'altra parte, vabbè, il buon capito, senso fai, cioè quelli come me senso comune, e l'ospite, certo, siccome me l'ospite che stiamo presentare, siamo europeisti e crediamo nel fatto che l'Europa debba riavere una centralità. Pro immigrati. Sì, ma no, pro-immigrati. Siamo per gestire bene l'accoglienza di un fenomeno che sicuramente farà anche bene. Sadiq Khan, il sindaco di Londra, oh, è una cosa straordinaria, è un grande esempio di cosa ma vuol dire davvero guarda integrazione. Guarda come amministra e non ai simboli che non servono a Sadiq niente. Sadiq Khan, grande sindaco non votato dagli inglesi, simboli, dai londinesi. Vabbè, voglio capire innanzitutto, comunque, presentiamolo, Antonio Caprarica, buonasera. Oh, buonasera, ecco. Beh, devo dire che siete maestri di suspense, perché per circa mezz'ora avete tenuto il vostro no, pubblico che... lì ad aspettare. Mi complimento perché sapete fare bene il vostro mestiere. Allora, Antonio, io voglio capire una cosa: non so se hai sì, letto, anche se sei in vacanza, sei un po' vabbè, disperso per le spiagge, no, ma legge e con lo sciabordio di acqua, con lo sciabordio di acqua ai piedi, naturalmente. Sì, sì, non so sì, se hai sentito questa specie di mappa che ha fatto il quotidiano inglese The Sun, sì, sì, in cui ha messo Napoli tra i posti sì, più pericolosi del pianeta. Onestamente, miei cari amici, vi devo dire che io sono, come noto, favorevole alla libertà di stampa con alcune ragionevoli eccezioni. Tra queste potrebbe rientrare il SA, per esempio. Cioè, però detto questo, è fuori di battuta. Cioè, sono dei cialtroni, dillo alla zanzaresca. Ecco, questo, diciamo, è il modo zanzaresco sì, e poi sì, tuo provocatorio, naturalmente. Sì. Perché no, perché è quello che senti, è quello che senti, è questo il problema. Però, io lo so che tu lo pensi, sono dei cialtroni. Sono e però insomma, diciamo che sono superficiali, ecco, perché naturalmente noi potremmo benissimo, per esempio, ricordare a proposito di immigrazione, terrorismo, mio Dio, sono arrivati i barbari, eccetera, che negli ultimi sei giorni per le strade di Londra si è verificata una roba che nemmeno a Napoli. Perché ad esempio ci sono state aggressioni con l'acido compiute da ragazzini di 15 anni ai danni di coetanei a bordo di motorini che sono stati prima colpiti dall'acido, ce ne sono un paio in gravissime condizioni e quindi spossessati del mezzo. Cioè tu stai dicendo che Londra per certi aspetti è più pericolosa di Napoli? Ma ragazzi, ma viviamo nelle società metropolitane, nelle grandi conurbazioni urbane dove la vita presenta molti vantaggi. No, d'accordo, ma la domanda molto precisa è questa, caro Antonio, tu sei giornalista, dunque puoi capirmi, no? Puoi capirmi. Rispondo precisamente. Allora, in questo momento Londra è più pericolosa di Napoli? Questo no, perché Londra difetta di una, come dire, caratteristica folcloristica della nostra amatissima Napoli. Cioè, qual è? La criminalità organizzata. Diciamo le cose come stanno, perché non è che poi possiamo fare finta del fatto che poi a Napoli ci sono le paranze dei bambini, no? Che vanno lì con le pistole, sparano e chi c'è. Questo è un per cui quella del San è una cosa, è un divertissement, è una cazzata. Certo, quella del San è classicamente, tu l'hai definita tecnicamente, come hai detto, quest'ultima una parola. Una cazzata. Esatto, sì, esatto, tecnicamente è giusto. Diciamo. Però, insomma, tiene conto anche del fatto che, ragazzi, diciamocela tutta, insomma, non è che il nostro paese in questo momento sia, come dire, questa specie di paradiso terrestre segnato dall'amore, dall'armonia, no, non c'è San Francesco. No, non c'è dubbio. Senti, un'altra cosa diretta, siccome Parenzo è un grande sostenitore, sai, noi ci occupiamo spesso di fenomeni come la prostituzione, no? E siamo molto a favore della legalizzazione. No, io anche Parenzo è a favore della legalizzazione. Sì, ma per mettere le multe ai clienti. Allora, lui è per mettere le multe ai clienti. Gli puoi dire, per favore, penso tu, io non posso credere che Antonio Caprarica, non posso, un uomo di mondo che ha vissuto in un sacco di posti, che ha fatto l'inviato, il direttore, il corrispondente. Non lo so, io non so se pare i bordelli o no. Non posso credere che Caprarica sia d'accordo con Parenzo quando dice che bisogna multare i clienti delle prostitute. Non ci posso credere. Guarda, posso raccontarvi un piccolissimo episodio di vent'anni fa a Tel Aviv. Sì, giravo un servizio televisivo sull'arrivo in Israele di moltissime bellissime ragazze russe che alimentavano questo fenomeno di dimensioni assolutamente spropositate per quel piccolo paese. Allora andammo su una delle strade della prostituzione di Tel Aviv. Bellissimo. E il mio cameraman, anzi no, il mio soundman, aveva il compito specifico di abbassare il finestrino della macchina e chiedere, insomma, quant'è, come va. Cioè, e io notai la prima, la seconda, la terza. Lui era assolutamente incapace di porre questa semplice domanda. Diceva, buonasera signorina, come stanno a casa? Oppure, non so, lei che lavoro fa? Faceva cose di questo tipo. Alla fine non ne potei più. Dice, scusa, ma tu non hai mai avuto un, come dire, un contatto con una prostituta? In vita tua? E la sua risposta fa, ma ti pare a te che noi paghiamo per quello che si può avere gratis? E questa, diciamo, fu una risposta. Quello. Una risposta, diciamo, classica. Adesso, multare i clienti. Guarda, la cosa della multa ai clienti francamente mi sembra una di quelle menate tipo vitalizi dei parlamentari. Cioè? Diciamo. Cioè demagogia. Cioè, secondo te aspetta un attimo, 30 secondi e torniamo, 30 secondi. Munez, parlate di Pucciac. La Zanzara. Allora, è con noi il grandissimo Antonio Caprari, che è, che secondo me della Rai a Londra, almeno così ormai, diciamo che non ormai solo. Ricordiamo anche il suo ultimo libro, l'ultima estate di Diana, però Spelle, la figura di Caprarica è identificata, no, da leggere, perché è stato, insomma, un libro bello, molto allora bello. Però la questione è molto semplice, lui ha detto che quello che tu pensi che sia un provvedimento giusto, caro Parenzo, lui lo ha definito una cosa demagogica, ed è giusto così. Io sono ancora più duro naturalmente con i confronti di questi sindaci, non serve a niente. Tu stai tacendo però giusto, se per parte che ho detto che è demagogico come la campagna sui vitalizi. Ma no, la campagna tu sei a favore dei vitalizi. Cioè, io come... sono a favore di riconoscere, lo diceva un signore che si chiamava Cicerone 2000 anni fa. No, non era a favore dei vitalizi Cicerone. Spiegava aspetta, era anche molto peggio la vita politica pubblica romana di 2000 anni fa, ma spiegava al colto e all'inclita che la politica è una professione che va fatta da professionisti, perché servire la allora fate come volete. Servire la polis richiede competenza, sacrificio e dedizione. Ma che c'entra questo col vitalizio? C'entra. Devi essere pagato per farlo. C'entra se mi consenti. No. C'entra perché va bene, no. Non c'entra perché non è necessario. Tu hai dato larga parte, ci sono persone che hanno dedicato larga parte della loro vita al servizio pubblico, dopodiché arrivano all'età della vecchiaia e devono ricevere un contributo. Mettano da parte una piccola porzione di stipendio per farsi delle assicurazioni. Ma questo è il punto. Tema però, perché questo tu puoi dire benissimo, signore e signori, in questo momento la situazione del paese impone che quella misura di riconoscimento del vostro servizio. Ma c'è gente che fa ricorso per il 20% in meno, per il 10% in meno, piglia 7.000 euro in meno. La questione, noi vogliamo discutere della misura o vogliamo discutere del principio? Io lo cancellerei. In Italia le mezze misure non è possibile. Bisogna a un certo punto prendere l'accetta e dire basta vitalizi, punto e basta. Perché infatti il nostro paese è il paese o dei sanfedisti o dei tagliagole. Noi non siamo capaci di fare riforme. Però scusami Antonio, tu sei mai andato in un bordello? Hai mai frequentato questo genere di... Sinceramente mai no. Andato con una prostituta in vita tua? Non sono mai andato in un bordello, perché sono della scuola del cameraman israeliano. Se lo posso avere gratis, se preferisco non pagare. Certo. E ti sei mai fatto una canna in vita tua? Questo sì, lo dico anche, vedi, veramente qui non dai alla mia opera scritta la dovuta attenzione. Perché? In un libro dedicato agli inglesi ho spiegato che la prima volta che mi mandarono a Londra a 14 anni per imparare l'inglese. L'inglese non lo imparai, ma imparai tre cose fondamentali: come rollarmi una canna, come bleffare a poker e come baciare una ragazza. Perché grazie a Dio Londra in quegli anni era una vera università. Fino a quanti anni te le sei fatte le canne? No, poco, sai, perché mi facevo io soprattutto un gran mal di testa. Si dice sempre così, Ma secondo te è più pericoloso farsi una canna o l'alcol? Cioè, è più pericolosa la droga leggera o l'alcol? Dimmi la verità. Non c'è ombra di dubbio che sia più pericoloso l'alcol. Dunque, anche tu sei a favore della legalizzazione? Ma questa è una domanda. Non pensavo che una trasmissione come la vostra avessimo ancora dei dubbi in merito. Dillo a Gasparri. Tu pensi che valga la pena talvolta di parlare? Con Gasparri dici tu. Voglio dire, a un certo punto è come per la faccenda dell'immigrazione. Io comincio ad averne, se posso usare un'espressione forte, le tasche un po' piene. Le palle piene, si dico io. Sì, grazie. Ecco, perché diciamo siamo in un paese in cui ancora stiamo a inseguire fregnacce di Salvini. Ecco, di tutti i signori che dicono Dio, l'emergenza. C'è un'emergenza un po', dai. Ma quale emergenza? Dai, 200.000 persone potrebbero arrivare quest'anno, dico, siamo in un paese di 60 milioni di persone non siamo in grado di accogliere poche decine di migliaia di stiamo parlando è solo business, Antonio, lo sai bene. Ma che c'entra solo business, Giuseppe? Abbi pazienza. Certo. Questo è un altro discorso. Tu stai parlando qui della gestione, ma è quella l'unico motivo. Si possono anche bloccare, sì o no? Certo, non c'è dubbio. Si possono bloccare, secondo te, sì o no? Sì, perché è dimostrato che si possono bloccare. Come li blocchi, Giuseppe? In mille modi, quando decidi che non arrivano ai porti, lo puoi fare. Affondi i barconi, affondi, li fermi. Quando dai un'indicazione chiara. Negli attracco alle onde, cariche di donne e bambine. Vanno attracchi in altri porti, nel nord Europa. Ma è contrario alla legge del mare, peraltro, quello che stai sostenendo. Ma è contrario alla legge del mare. Quello che tu dici, naturalmente, ha un fondamento reale. Adesso io non è che voglio negare la circostanza che siamo... Senza gli immigrati non ci salviamo secondo te? L'Italia no, no, no, no, intanto dobbiamo accoglierli perché ci servono drammaticamente. Ma non è così. Dopodiché sì, no. Sì, e chiunque dica il contrario sta negando non la verità dei numeri. Non è vero, allora, non è vero. Allora le cifre che ha fornito il presidente del... Ma non ci pensano quella è una posizione politica, perché tu sai bene che invece ci pesano come costi, un sacco di soldi ci pesano come costi, dunque non si può fare. Ma fai della propaganda. Ma che propaganda? La fanno, la fate voi la propaganda. Però voglio chiedere ad Antonio. Scusami, ma quando avremo, quando avremo ad esempio a Roma o a Milano, ma Roma, un sindaco come Sadiq Khan, bellissimo, una grande figura. Vorresti un sindaco islamico tu? Vorresti un sindaco islamico? Io mi chiedo quando avremo al Quirinale il capo l'assistente, come si dice, consigliere militare, il consigliere militare del presidente della Repubblica di Pelle Nera, di Pelle Nera. Origine senegalese. Bellissimo. Come lo scudiero appena nominato da essere? Sua maestà Elisabetta. Ma perché dovremmo avere per forza uno così? Ci sono le quote, siete, le quote. Ma perché voi volete rimanere voi in Africa? Siete incapaci di aprirvi la testa verso un mondo che ne ha le tasche piene delle vostre differenze. Tu sei come la sei come la Chieng che dice che devono essere accolti tutti, devono essere tutti accolti questi che arrivano. No. Tu sei di questa posizione qua, dillo però apertamente. Ti ha detto che anche la regina ha preso, scusami. Ma l'ho detto, l'ho detto ripetutamente, non vedo nessuna ragione per non accogliere tutti. Per non accogliere in un paese a crescita zero, anzi a crescita sotto zero, perché non dovremmo accogliere gente che vuole fare figli e costruirsi un avvenire in questo paese? Bellissimo. Dove siete ridotti a venerare siete, perché dei tu personaggi che, sei. Che non vi danno uno straccio di futuro, di speranza. E chi sarebbero? Chi sarebbero? Speranza? Chi sarebbero? Giuseppe, chi sarebbero? Salvini? Salvini? Scopata questa sera, qual è la tua speranza per questo paese? Vabbè, adesso voglio dire. Fermi, devo fermare qua, però un'altra puntata sulla Rai la facciamo. A presto, ciao Antonio, un abbraccio. Ciao. Parenzo, io sto venendo a Roma, posso venire a trovarti alla sera? La Zanzara. Allora, caro David, ancora ho in testa questo articolo del quotidiano inglese The Sun. The Sun. Sì, autorevole. Beh, insomma, autorevole adesso, non esageriamo, è un tabloid di quelli tabloid popolari, di quelli super popolari, no? Tabloid storico però della grande tradizione anglosassone, britannica, alla quale dobbiamo inchinarci sempre avanti. Napoli è tra le città più pericolose del mondo, lo voglio ripetere, cioè perché la mette insieme a Raqqa, Mogadiscio, Caracas, St. Louis, Kiev, Grozny. Caracas però, amico mio, Caracas mi pare un po' eccessivo. Beh, amico mio. Visto che a Caracas girano armati in alcuni quartieri. Allora, gangs, murder. Gangs o gag? No, gangs. Gangs. Gruppi criminali. Cioè Napoli messa insieme a tutte queste città tra le città più pericolose del mondo. Gli angoli più pericolosi della terra. Poi siamo noi. E poi la colpa è nostra. E poi la colpa è nostra. Accusati di essere antinapoletani. Prendetevela adesso con il quotidiano The Sun. E sto leggendo il mattino, lo ripeto. Come abbiamo detto all'inizio. Il mattino, chi va all'inferno va a Napoli, è tra le città più pericolose al mondo. Secondo il giornale britannico è tra i primi posti per criminalità organizzata, traffico di sostanze stupefacenti e omicidi. Ragazzi, non rompeteci più i coglioni, eh. Non rompeteci più i coglioni. Michele da Prato, vai Michele. Buonasera, buongiorno. Dimmi, dimmi Michele, dimmi. No, io volevo intervenire perché mi aveva colpito quella ordinanza sindacale del sindaco di Empoli. Ma che ordinanza sindacale? Non è un'ordinanza sindacale, è un'ordinanza di un sindaco, cioè non è del sindacato, è di un sindaco, quindi non è sindacale. Ma che sindacale? Si dice ordinanza... scusi se la correggo. No, no, forse aspetta, lei... però vuole dire un tecnicismo. Ordinanza sindacale è ordinanza del sindaco. Sì, vabbè, d'accordo, abbiamo capito, dai, dai. Così. Quindi mi ha colpito in negativo... diciamo la sanzione che hanno combinato a quel signore a seguito quel signore di Fucecchio, grande eroe, che si era appartato con una prostituta e addirittura il sindaco stigmatizzava la sua filosofia. No, ma ripetiamolo ancora, cioè la questione è molto semplice, addirittura delle persone in borghese si sono appostate per capire se questo qua scopava o no con la prostituta. Bene. Una volta e accertato, come dire, una volta preso atto della scopata, quando quello ha lasciato la prostituta lo hanno pizzicato e gli hanno fatto la multa. Per la felicità apparenziana. Per la felicità apparenziana. No, per la felicità apparenziana. Hanno preso di pagarla sul posto, dicendo guarda ti mandiamo il verbale a casa affinché tua moglie scopra quello che fai, diciamo. Ora, siccome noi crediamo allo Stato di diritto sempre, allora dobbiamo essere sempre allo Stato di diritto. Qui si passa da un diritto penale o amministrativo del fatto a un diritto penale che punisce gli stessi. No, no, però non la facciamo complicata. Che cosa vuoi dire, Michele? Dai, non mi fare venire mal di testa con queste puttanate, dai, su. Cosa vuoi dire? Spiegami, cosa vuoi dire? Spiegami. Voglio dire che viene punito uno stile di vita. Ma certo, con la scusa, su questo hai ragione, con la scusa dell'ordine pubblico, della viabilità, di non so altro, viene punito uno stile di vita. E questo, Parenzo, ti devi arrendere. No, fermi, un momento, non viene punito nessuno stile di vita, viene punita l'attività criminale di un maiale che anziché fare l'amore con la propria moglie o fidanzata, paga una donna potenzialmente sfruttata, silenzio. Io la stimo perché la seguo sempre, però no, ma questo non toglie il fatto che possiamo pensarla diversamente. Non c'è moralità. Come non no? È una questione. No, non è una questione. Come no? Certo che è così. Ma ragazzi, scusi, c'è la volontà di fare cassa innanzitutto, che ne dica il sindaco. Questo cosa c'è? Negativo. La filosofia di vita. Sì, il sindaco metteva, dice lei non ci deve andare a puttane. Lei non deve andare a puttane, sostanzialmente. Vabbè, ma questo compone. Vabbè, ma questo che, ma è certo che non deve andare a puttane uno, ma è evidente. Ma perché uno non deve andare a puttane, chiaro? Scusa? Cioè, perché non deve, perché scusate, sfrutta una donna. Ma questo non è compito del sindaco deciderlo, no, dai. È combattere lo sfruttamento, una bella politica. Si quello, c'è questo. La polizia che se ne occupa, le indagini. Anche il sindaco con una bella ordinanza. Michele, vai, concludi, vai, dimmi. Quindi, concludo dicendo che c'è il rischio, se noi accettiamo questi comportamenti, che si passi da uno Stato di diritto a uno Stato etico. Vabbè, Michele, abbiamo capito. Francesco da Caserta, vai. Buonasera. Dimmi. Io ho chiamato per lo stesso motivo, cioè in realtà mi ha anticipato il vai dritto, vai prima. Vai. Sì, no, allora premetto che poi chiaramente potete credermi oppure no, in vita mia ho 45 anni e mai andato con una prostituta. Sì, quindi... ma non è un motivo di vanto. Qualcuno dice mai andato con una prostituta, come se fosse un vanto. Non è un vanto. Luciani, è un dato di non fatto. Bisogna vantarsi. Parenzo si vanta di questa roba qua. Parenzo si vanta. Mai pagato allora, una donna per andarci, non c'è dubbio. Attenzione, è un dato di fatto. Non è un motivo di vanto o meno. È un dato di fatto. Non sono mai andato, premessa. Quindi allora, non male, ti manca qualcosa, ti manca un'esperienza. Ti manca un'esperienza. Ognuno la pensa come ti manca vuole. Un'esperienza, però, male, bisogna andare, ragazzi, diciamo la verità. Diciamo tutta la verità. Diciamola tutta la verità. Se almeno per una volta, caro Parenzo, non sei andato a puttana in vita tua, in un bordello, o per strada, o su internet, non hai reclutato almeno per una volta nella tua vita una prostituta. Beh, amico mio, ti manca un pezzo di vita. Ma voi siete delle persone senza valori, e che sfruttate le donne. Questo è il punto. Bisogna dirla chiaramente. No, avete degli istinti che anziché mettervi davanti a un bel video, a un film porno, erotico, quello che volete, un po' di carta igienica, vi mettete nel vostro bagno di casa e vi fate le vostre porcellate, le vostre porcellane, le seghe. No, la maggioranza silenziosa non parla in questo modo. Vi fate le vostre, i vostri trastulli, chiamiamoli i vostri trastulli. Allora, se invece usate il corpo della donna pagando 2 lire per solleticare i vostri istinti, anziché stare con le vostre amichette, con le vostre fidanzate, con le vostre, dovete essere puniti. Ma puniti in modo esemplare. Vabbè, Francesco, deve arrivare. Posso dirti, ma non la lettera a casa. Deve arrivare il poliziotto della municipale a casa che suona, fa così, guarda. In Iran. Chi è? Dice la moglie. Chi è? Amore, sei tu? Polizia municipale. Oddio, come polizia municipale? Oddio. Aprite la porta. Arriva. Consegna, dice, le consegno una multa. Ah, cos'è una multa? Oddio, mio marito avrà preso i figli a scuola. No, signora, suo marito è andato a puttana. pane, gli consegna la lettera, chiude la porta, chiude la porta, e quando il marito torna a casa bel bello, suona il campanello, trova la moglie con la ramazza, con la ramazza con i chiodi. Questa è la scena che deve palesarsi. Sei una vergogna, sei una vergogna. Toc toc. Sei una vergogna, sei così una vergogna. Sei una vergogna, sei peggio dell'Ayatollah Khomeini. Devono suonare il campanello, tutti in divisa, bellissimi. Sei peggio di un Ayatollah. Della municipale con i guanti bianchi. Signora, buonasera. Suo marito. Cos'è, una multa? No. No, suo marito è andato a puttane. Che schifo, ragazzi. Ecco qua. Con la signora, che con schifo. Le buste della spesa e i bigodini in testa, che attonita davanti alla porta quasi perché caracolla per perché terra. Con i bigodini? Questa scusa, allora, beh, avrei allora sarebbe autorizzato ad andare a dopo troia. Tanti anni sarebbe autorizzato, giusto appunto ad andare a puttane. Ecco che c'è i bigodini in testa, i bigodini in testa e i piedi non fatti senza smalto. Mamma mia. Ciò non toglie, ciò non toglie che il poliziotto suona alla porta e dice alla signora: oh, cos'è, una multa? No, signora. Pausa. Suo marito è andato a puttane. Vabbè, Francesco, dimmi. Questa è la situazione. Francesco, allora? Te lo dico. Normalmente ero d'accordo, sono molte posizioni, sono d'accordo con Parenzo, però in questa occasione no, perché secondo me non dà nessuno il diritto al sindaco di sputtanare una persona per. Poi attenzione, si possono fare. Mi stai dicendo, scusa Francesco, mi stai dicendo che tu non sei mai andato a puttare, ma sei contrario a questa follia di mandare la multa a casa. Sì. Addirittura il sindaco di Empoli vuole impedire che si paghi subito la multa, in modo che la vergogna sia per massima. La persona, no, vabbè. Questo è inaccettabile. Anche Angelo, provincia dire. Di Lucca, vai Angelo, ciao Francesco, Angelo, che stai, motorino, Angelo? Sono qua. Vai, dimmi, vai, togli viva voce, togli auricolare, vai dritto. Viva voce, non sono lì, sto lavorando e scusami un attimo, ero in officina. Bravo, bello. Operaio, lavoratore, ascoltatore della Zanzara. Vai, Angelo, dimmi. Ascolta, volevo dire. Presente adesso? Sì, vai, Angelo, vai. Ascolta, volevo dire a Parenzo. No, Claudio da Roma. Pronto? Dimmi, Claudio, dimmi. Buonasera a tutti. Niente, io volevo riprendere il discorso del signore lì che è andato a dormire, quello di Fucecchio. Sì, di Fucecchio. Vedo che l'argomento attira, Parenzo. L'argomento tira. E niente, volevo dire che purtroppo ha la mia totale solidarietà, in quanto... È normale, naturalmente. Allora, praticamente io conosco determinate persone che hanno delle problematiche in casa, perché hanno le loro mogli che hanno dei problemi e quindi non possono avere rapporti sessuali con le loro mogli e debbono assistere le loro mogli, ma hanno anche il loro bisogno fisiologico. Non ho capito, rapporti. Mi stai dicendo che, a parte che sono sicuro che tu parli, ma in realtà ti stai riferendo alla tua esperienza personale. No. Cioè, non sono amici, sei tu in questa condizione, no. Diciamo la verità. Comunque, vabbè, facciamo finta che non sia così. Non devi far finta, guarda. Tu stai dicendo che ci sono persone che hanno donne, compagne malate, diciamo, oppure che ne so, con qualche impedimento fisico, e dunque sono autorizzate ad andare a puttane. Vabbè, però, amico mio, questo che c'entra? No, non sono autorizzate ad andare a puttane, sono autorizzate ad andare con altre donne a pagamento. Se loro hanno bisogno di avere uno sfogo sessuale, possono benissimo andare a pagamento. Il problema non è questo. Quello che il sindaco non ha il coraggio di fare è quello di trovare una soluzione. Ma il sindaco, come tutte le autorità, come il governo, come tutte le autorità e le amministrazioni, non hanno il coraggio di trovare una soluzione affinché evitino che le persone, le donne, stiano per strada. Giusto. A Roma ci sono strade dove praticamente ci sono donne completamente nude. Sì. E perché allora quelle non fanno le sanzioni? Beh, ogni aspetti tanto che... qualcuno ci prova. Aspetti che io vado con la signorina a pagamento. No, ma infatti secondo me a parte io sono favorevole anche alla prostituzione per strada, non allora, succede assolutamente nulla. Non vedo qual è il problema, francamente. Stanno togliendo tante Ci sono delle strade battute dalle prostitute, pazienza. Ma cioè, non solo pazienza. Dalle prostitute, pazienza. Anche dai trans. Ma cosa vuol dire anche strade trans, battute dalle prostitute, basta che non si commettano reati, spaccio di droga o altre cose lì, cioè, ma la gente passa. Sì, ma quello è un altro discorso. Io abito a Roma, ci sono strade che portano il male, sì, che sono frequentate anche dei trans e che stanno completamente, ma anche qua sotto, scusami, con i loro piccoli di fuori. Nudi non si può stare, lì vieni arrestato se vai nudo. Allora non hanno il coraggio di allora, prendere. Allora Claudio, nella come ha ripetuto mille volte, qui siamo in una zona, a Milano, in una zona super residenziale dove gli appartamenti costano 6, 7, 8 mila euro al metro quadro, zona Monterosa, dove è qui la prestigiosa sede di Radio 24, e anche di giorno ci sono le puttane. Allora, ci sono le puttane di giorno che non, è, che non esibiscono in maniera eccessiva, ma si lasciano intravedere le tette, le cosce, eccetera, eccetera. Andatele a trovare, andatele a sentire. Sono qui straniere, non con i loro macchinoni che parcheggiano qui a Via Monterosa. Nessuno dice nulla perché non succede niente. I bambini ogni tanto chiederanno, Parenzo, chi è quella signorina? I genitori rispondono, una signorina che sta lì, ferma. No, ma non è il problema qual di è cosa il punto? Rispondono cioè, qual è? Il punto è lo sfruttamento di queste donne. Ma che insegnamento ma quella dai è la polizia. A tua figlia? Se ne occupa la polizia, figlio, se ne occupa la polizia, scoprissero loro le gang, io mi sono trovato un tempo fa con mia figlia che stavo appunto tornando sulla Salaria, tanto per non far nomi, dalle vacanze, e c'erano queste donne con questi fuochi accesi in strada di notte, che cosa eccetera, hai spiegato? E lei mi ha detto, papà, ma che cosa fanno? Dico, guarda, queste donne poverine sono donne sfruttate che vendono il loro corpo. E lei ha detto, ma è una cosa terribile. Dico, sì, certo che è una cosa terribile. Ma magari quelle erano felici di stare là a fare le prostitute. Perché lo Stato non interviene? Io ho detto, perché ci sono delle persone come Crugiani. E dice, come il papà di Viola? Dico, sì, esatto, persone come Crugiani che invece alimentano quel mercato. Dice, ma allora papà lavori con una persona orribile. Ho detto, amore, sì, però sto cercando di, cioè, mi hai messo in cattiva luce nei confronti di tua figlia. Totale, totale cattiva luce. Fai schifo. Totale. Sono un puttaniere e me ne vanto. Sono un puttaniere e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo. Ciao, ciao. La Zanzara. Allora, caro Davide, non so se ti ricordi questo personaggio che si chiama Crippa, è un rivenditore... Crippa, come no? Crippa, grande direttore generale delle informazioni dei media. No, ma non c'entra niente lui, lui che si chiama Crippa nel come mondo. Tu mi hai chiesto, ti ricordi Crippa? Io ti dico di Crippa, conosco Crippa. Ma sì, lo conosco anch'io, che vuol dire? Ho capito, poi se mi fai una domanda ti rispondo. Poi mi dici, chi altro da Crippa? Conosco quello del Foglio che si chiama Crippa. Altri non c'entrano Crippa, nulla, come al solito. Francamente non mi vengono in mente. Solo però... tu, come al solito, conosci solamente quelli dell'establishment. Ma che establishment? Conosci solamente quelli del tuo mondo, del tuo piccolo mondo, il piccolo mondo antico di Parenzo. Conosce solamente giornalisti, dirigenti. No, piccolo mondo antico, sto dicendo. Stai dicendo che Crippa del Foglio è piccolo mondo. Va bene, per carità, ormai l'hai detto, per carità, va benissimo. Allora, questo Crippa in realtà è un rivenditore a un negozio di vestiti, di cose militari in Brianza. Tempo fa, intervistato da Piazza Pulita, disse le seguenti parole. Siamo sempre sulla questione fascismo, libertà di espressione, etc. Non fa impressione, ci siamo dimenticati quello che è stato il fascismo. La storia è storia. L'apologia del fascismo è un reato in Attenzione, Italia. Attenzione, cosa vuol dire apologia di fascismo? Io lo so, lei si deve documentare. È stata una dittatura nel nostro paese il fascismo, no? Me lo dico lo dice io lei. Che questi simboli hanno portato morte. I campi di sterminio non sono mai esistiti. Ah, non sono esistiti i campi di sterminio? No, non sono mai esistiti. Hai capito? Sì, hai capito? Mi pare anche questo qui un nuovo caso psichiatrico. Cosa ti devo dire? Ma mi pare. Tu hai il numero di telefono di questo ma qui? Ma sì, certo che ho il numero di telefono. Cioè, lo hai dato alla Procura della non Repubblica? Non c'è bisogno di dare a nessuno. Uno che dice che i campi è un negazionista. Di è un negazionista, no, cioè un è coglione. Un idiota. È un idiota, d'accordo. Un negazionista, un coglione. Ma come ma sai, tu sai io, per che esempio, in Germania. Io all'epoca ero a favore, per esempio, dell'ingresso in Italia. Te lo ricordi di Irding, che poi credo sia morto? Non lo so storico se... revisionista. Sì, no, è morto? Non mi ricordo. Sì, mo me lo auguro, ma insomma no, adesso no, perché ti devi augurare la morte di uno. Adesso non mi ricordo, sai, se è morto. Scompaiono no. Tante brave persone che se ne scompare una che è un imbecille, non posso io provare. Ero favorevole al fatto, che potesse tranquillamente entrare in Italia e dire quello che pensava. Comunque ancora c'è dell'altro su questo Sì, anch'io, così arriva e mando un po' di amici a prenderlo all'aeroporto, dagli il saluto, il benvenuto. Questo che cos'è? Oddio, è la croce celtica con un pitbull. Perché io amo gli animali. Ne vende tante di svastiche. A migliaia. svastiche, a migliaia, e celtiche, migliaia. Come mai ne vende tante? Dice sono... perché probabilmente piacciono tanti. No, no, non è morto, non è morto David Irving, nato nel marzo del 38. Comunque, a parte questo, io ho in mano questo telefono, non mi ricordo se è un telefono fisso della sua azienda. Facciamo qualche domandina a questo signore sulla vicenda dei gadget nazisti, dato che ne vende parecchi, come lui ha detto, no? Pronto? Antonio? Chi è? Sono Cruciani, ciao. Ciao. No, volevo sapere da te che ne pensavi di questa cosa che vogliono proibire il saluto fascista, hai visto, no? Vabbè, ma non è passato, perché... No, ancora non è passato, diciamo, è un'idea, diciamo, una proposta. No, diciamo. Ma c'è la Cassazione che dice che non è più reato il saluto romano. Sì, no, vogliono fare una legge che fino a due anni, di condanna fino a due anni per chi fa il saluto romano, capito? Sì. Che ne pensi tu? Pensi che è una cazzata? Con tutti i problemi che ci sono vanno a vedere il saluto romano. Cioè, noi abbiamo insegnato il mondo a camminare, no? Chi? Voi chi? Perché? Noi. I fascisti, cioè, dici? Certo. Ma in che senso i fascisti hanno insegnato al mondo a camminare? Non ho capito. Il passo romano, chi l'ha inventato? Sì, no, ho capito, non è che... Aspetta, l'abbiamo inventato noi, no? No, ho capito, ma che vuol dire? Cioè, non è che la gente ha imparato a camminare... Abbiamo inventato il passo romano, per esplodere. No, va bene, va bene, va bene. Antonio! Oh, ma chi c'è sotto? No, non c'è Parenzo, c'è Parenzo. Voglio capire una cosa. Ma vienimi a trovare. No, ma io ti vengo a trovare volentieri nel tuo negozio, assolutamente. Sì. La cosa che voglio capire è tu che sei perché, ancora... No, mi devi scusare, però c'ho qua un po' di gente. Io, no, ma ho due minuti, io voglio capire... Sono andato subito a retta, però sono un po' preso. No, capito? Ma lo capisco, voglio capire che significa... questa cosa del saluto romano, fino a due anni, tu saresti uno dei primi a andare a essere condannato, diciamo, no? Perché? Vecchio fascistone come sei, o no? Ho capito, sai, le radici profonde non gelano mai. Però tu lo fai ancora il saluto romano ogni tanto? Ma ascoltami, mi devi perdonare, ma c'ho gente, non riesco... Vienimi a trovare che ne parliamo, andiamo a mangiare assieme, discutiamo. No, ma voglio capire una cosa, però... tu sei ancora dell'idea quella volta che ti intervistano quando hai detto che le camere a gas non esistevano? Ascoltami, c'ho troppa gente, non riesco più da... perdonami. Ma, però... ma rispondimi su questa cosa. No, non riesco, guarda, c'ho qua gente con i soldi in mano. Perdonami, con i soldi in mano, addirittura? Pure sì, i soldi. Sto lavorando, non riesco, dai. No, ma per carità, assolutamente, ma sei ancora... Richiamami, dai, non riesco, cazzo, c'ho qua gente, c'ho gente. C'hai gente. Sarei maleducato. Educato, dai. Non fare il fascista. Ma... Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao. Un abbraccio anche a te, mi sembra, Un abbraccio anche a te, o sbaglio? Rifiutato, grazie. Ma che cos'è questa storia che uno ci hanno insegnato a camminare? Cioè, com'è la storia? Non lo so, no, mi pare un poveretto che vive ancora con la mente rivolta agli anni 20. È una persona da internare. E dato che sei ancora qui, David, so che devi scappare, so che stai scalpitando, però facciamo il pieno del karma, No, non è necessario. Mi ci vuole un'iniezione di karma quotidiano. David, potresti andare a fare in culo? Praticamente io stesso non è passato. Gentiloni, si arriterà di cugliona. Non c'aveva cugliona per presentare l'emendamento. Ah, che hanno capito? David, hanno ritirato gli usi soli. Neretti, arritiratevi. Tornate in Africa. In Senegal, arrestateci però. Che gli usi soli non c'è sta più. Non la potete avere a cartendita. David. L'editoriale del karma quotidiano sullo Ius Soli. Cioè lo usi veramente come fosse, no? Come su Sole 24 Ore usano le grandi firme, sì. Alberto Quadrio Gentili, Curzio. Un Gentili, il direttore. Sì, appunto, è una cosa incredibile. Guarda, Neretti, che ha detto Neretti. Ma tu ti rendi conto come stai distruggendo questo paese ogni giorno? Ne stai demolendo le fondamenta. Ovviamente il karma anche sulle puttane. Non può mancare, grande puttaniere italiano, il karma quotidiano, frequentatore di bordelli austriaci seriale. comunque, amici miei, meno 2 GG di lavoro e si parte direzione Tarvisio, frontiera tac, barriera tac, se paga con telepass. A questo ne fermiamo manca a perdere tempo, dritto 10 chilometri tac, uscita Onendrum tac, posteggio tac, scinna borso zaino tac, pago l'ingresso 85 euro tac, mi spoglio accappatoio e si tromba tac. A me lo sai quello che fa impazzire? A me fa impazzire la risata, devo dirti la verità. Cioè, la risata, al di là del contenuto, Parenzo, naturalmente è la vita di un puttaniere professionale, praticamente. Sì, la risata, no? Di una persona. No, la risata la trovo la cosa più bella, cioè la sentirei continuamente. Mi sa che potrei farmi fare la suoneria del telefono con la risata del karma, lo sai? Sì, ma pensa a te. Ma non hai nulla a dire sul karma, non ti ispira nulla il karma. Il karma mi fa, arte, sai perché? Perché pura. Non è a Cattelan, dici tu, no, ma il karma. Il karma è arte. Sai cos'è? È come mangiare il vomito. Cioè, ci sono quelle persone. No, stai esagerando. Dai. Fammelo dire adesso in finale di trasmissione, da parte mia. È come mettersi a mangiare, che ti viene quell'anguorino, no? Come nella scena di Amici miei, del film di Amici miei in aereo, quando fanno finta di mangiare il vomito. Ecco, però invece tu hai un gusto per quello schifo, cioè. Perché poi dai, anche sei anche un razzista, in verità, diciamola perché? Tutta, me lo perché? Stanno suggerendo qui giustamente. Perché tu fai finta di essere popolare e populista dalla parte del popolo. Però in realtà riduci i camionisti a delle macchiette. Quando i camionisti, ad esempio, alcuni mi hanno scritto: leggono Gogol, leggono Dostoevsky, non hanno questo segno. Chi ha detto il contrario? Sei tu. No, ma tu non intervisti mai, non ne chiami mai uno il camionista colto. Ce ne sono un sacco. Fai diventare il karma maître à penser dei camionisti. Ma non è un camionista, è una... quello fai l'agente di commercio. Non c'è l'agente niente. Di commercio fa. Sì, ma se a me viene a suonare padre, a casa uno come padre. Quello... Ma tuo papà è una persona raffinata. Ma se quello lì mi viene a suonare alla porta, io mi chiudo con 4 mandate, poi gli butto l'acqua bollente dalla finestra. Se uno poi così se la prende, viene a suonare, ma non è finita, alla mia porta. Non è finita, caro Davide. Se la prende a un certo punto con il mitologico Castagna dell'associazione Christus Rex, il quale ha detto che non si è mai masturbato. Vabbè, eccetera, questo, eccetera. No, ma senti, potrei trovare delle, come si dice, no, delle attinenze, delle similitudini, delle, delle aderenze, delle aderenze con la tua, aderenze, col tuo pensiero. Sì, Giuseppe, volevo dire a questo signor Castagna, questo cattolico, diciamo, che dice che non si è fatto mai una pippetta, una pippona, quello che è. Carissimo signor Castagna, ti posso dire che nonostante io sia un cultore della figa d'osticcio e di bordelli austriaci, quindi è scontato che mi piace osticcio assai, ogni tanto bisogna farsi una pippotta. E a 45 anni pippotta ancora me le faccio. Perché primo, la pippa quando te la fai praticamente ti conosci tu stesso, vedi pure i tuoi limiti e poi come te la fai tu da solo a sega da fanno manche mignotte. Secondo, carissimo signor Castagna, il pippotto serve per tenere a minchia in allenamento, perché se tu la lasci lì morta e aspetti solo quando vai a trombare, come dici tu, con le donne o di qua e di là, e allora trombare ogni giorno, capito? Quindi ogni 2-3 giorni, se non trombi, ti fai una pippotta che ti aiuta, è come un massaggio, la prostata deve stare vuota, o capisci o no? La prostata va svuotata, è come un bicchiere, va svuotato, va tenuto vuoto, perché potrebbe creare dei seri problemi a prostata, io la voglio svuotare. Io quando non vado a trombare a svuoto perché a parte che la voglio tenere allenata, la voglio tenere allenata, così mi alleno come Rocky Balboa. Certo. anche un urologo, l'urologo Karma. Davide, io attendo con ansia un tuo commento a questo ennesimo editoriale del Karma. No, lo vedi nei termini, editoriale. Benissimo per il Corriere Salute, probabilmente, no? L'inserto che si occupa di salute, quella della sera, oppure per il Venerdì della Repubblica. Ma chi è accanto, il fantasma che è accanto a lei, non è emozionato dal Karma, sicuramente no, è emozionato. Lo ha sentito, vedessi la faccia, è che la radio, come tu sai, purtroppo non ha il video, cioè anche il bello della radio, il fatto di non avere il video. Però sentendo le parole ha un aspetto raccapriccio, cioè di disgusto. Sai come quando mangi una roba, quando mangi lo yogurt scaduto di un mese, no? Torni a casa, lo apri, uguale. La botta finale però la dà perché è d'accordo con Parenzo. La botta finale te la dà così. Non dire mai così, che è d'accordo con me. Senti. Mi puoi creare dei problemi. Ragazzi, non lo so che minchia mi sta succedendo. Che una volta sera tornavo da travagliare, accendevo la televisione, guardavo programmi di figa, di sticchio, di pilo, tutti i programmi che a me mi interessano tantissimo. E invece la sera adesso, chi minchia è che faccio? Ma te rendi conto che malattia che mi pigliavo? Metto la 7 e guardo David per vedere che minchia di trasmissione va. Però la guarda intanto, meno male, bravo. Cioè, Karma che guarda David di Parenzo sulla 7. Ma che minchia mi passa pa' testa? Bravo. Perché ma non alla fine è che niente David mi inizia a stare simpatico. Minchia, mi stai preoccupando tantissimo. Speriamo che mi passa, che ritorni a tagliare i programmi di sticchio. Perché tutte le sere guardare la 7. Vuol dire che ti stai convertendo, stai ciao cominciando David. A pensare. Ma per carità, vuol dire che stai cominciando. Mi ha distrutto completamente. Vuol dire che fa anche una brutta pubblicità alla rete, perché il fatto che uno così guardi. Vai, Karma! Fa, capito? Signora del Santo, sa che cos'è lo squinting? Sì, è quel ballo dove muovi il sedere. Cos'è lo squirt? Quel ballo dove muovi il sedere. Cruciale, dimmi cos'è sprint. Quel ballo dove muovi il sedere. Perché? Ho sbagliato? Quello che ti muovi tipo convulsamente. Convulsamente. Quel ballo dove muovi il sedere. Sì. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Luciani, siamo in Austria e la mia ragazza si sta facendo il bidet nel lavandino. Non hanno il bidet? Allora, dunque, eravate tutte e due sul lago di Garda e nessuno dei due si è trombato malena. Che segaioli miserabili. Se mia moglie mi tradisce, sono io che devo chiederle scusa, perché non riesco a darle quello che vuole e allora va a cercarlo da un'altra parte. Allo stesso modo, se io tradisco mia moglie, è perché lei non riesce a darmi quello che voglio, quindi sarebbe lei a dovermi chiedere scusa. Beh ragazzi, non fa una grinza il ragionamento di questo ascoltatore, ma un messaggio che ci è arrivato da Napoli, l'abbiamo già fatto sentire, però risentiamo. Caro Cruciani, sei il solito cazzone che non sai un emerito cazzo, il giornale che ha detto quella cagata, infilato nel culo, coglione. Guarda che in Milano ci sono dei posti, a Milano, che è molto più pericoloso di Napoli. Cazzone, coglione, non sai un cazzo, parli perché c'hai solo il fiato da buttare fuori, hai le orecchie attaccate al cervello, stupido, mago pezzi di merda. David, prima del tuo addio io chiamerei questo signore, vai. Pronto? Sì, pronto? Dica. Sì, ma allora che succede con questo giornale inglese Napoli? Ma chi è, scusi? Sono Cruciani, buonasera. Cosa succede? Lei fa la cazzata a continuazione, non si rende conto. Lei parla, ma lei vive a Milano, dovrebbe conoscerlo un po' Milano, ma è stato mai a Milano? Io ci vivo a Milano. Fa cagare Milano in confronto a Napoli. Sì, lo dica, adesso, lo dica al quotidiano britannico The Sun. A me che me ne frega, lei, lei da quanti anni è che non va a Napoli, che parla, ma non sa un cazzo. Sono anni che non vado a Napoli, leggo le cifre, leggo le cifre, leggo le analisi, vado sul territorio, vuol dire vado sul territorio. Sono un politico. Tu devi fare tu l'analisi al cervello, caro. Sì, quello interessante, una cosa che potrei anche fare. Ma ti conviene, perché secondo comunque si rivolga all'ufficio stampa. Sì, certo, si rivolga all'ufficio stampa del quotidiano britannico The Sun. Del quotidiano britannico The Sun. Ascolta il Ciro del Ciglio, che sarei io. Chi è lei, zio? Ascolta a Ciro Rescigno, che sarei io. Zio Rescigno. E chi è Zio Rescigno? Lo chiamano già, non vivo a Napoli, nonostante ci vado tre volte all'anno, ma rivolgiti al quotidiano britannico The Sun. Ma se The Sun scrive cagate, che fa una statistica alla cazzo. Ma io non sono contento del fatto che Napoli viene inserito tra le 10 città più pericolose. No, non sono mica contento, però si rivolga agli inglesi, al signor Murdoch. Per farti un esempio banale, ti ricordi quando arrivò quella militare a Napoli che arrivò con io la volevo vedere. Se scendeva a Milano uguale, cosa ti facevano? A Porto, come cazzo si chiama lì? A Porto che? Non ci sono porti a Milano. No, Porto che? Quali porti? No, Porto, come si chiama quel cazzo di mare. Di dove? Linate? Malpensa? Dove? No, in macchina, lei si mise in macchina con amico con mio, la avanzata. Sì, ma sei confuso. Si lamentò perché gli stava dando un prato. Sei un po' confuso. Sì. La realtà è che non c'è voi sta. Cioè, non c'è voi sta. Invece di pensare ai mali. Non ci voglio stare. Perché? Invece di pensare ai mali. Cosa diceva? Di Napoli e poi muori, lo so perché. E perché? Perché talmente che la cartolina, quando la vedi, rimane. Ma non mi interessa a me la cartolina. La cartolina. Tu sei ancora a Babbo Natale, tu che hai le pigne in testa, Crucia. Sì, questo lo dico io di solito. Lo dico io di solito, le pigne in testa. Comunque, amico mio, Napoli. Lo dico pure a te, la realtà. La realtà è una sola. Dimmi, Parenzo, ti vuoi dire qualcosa? Perché con te molte volte la penso come te, quindi è meglio che non parli, perché se no litigo pure con te e non ci voglio litigare con te, professore. Ma qua professore, cioè adesso a me, ma con tutto il gente e sul scemo che c'è a fianco. Come? No, ma non ho capito, perché lei ha questo livore nei confronti di Cruciani, professore? Non capisco. Perché sul 50% delle cose che dice, anzi sul 100%. Ma tu che fai di mestiere? Che fai di mestiere? Sono tutte cazzate. Sì, ma tu che fai di mestiere? Allora, fino a poco tempo fa facevo l'operatore in comunità terapeutica per persone con problemi di tossicodipendenza e alcol. Sì, vabbè, quello è buono, sì, buono. Beh, bravo. Certo. Poi? E adesso che fa? T'hanno cacciato? No, non mi ha cacciato nessuno, come purtroppo succede in questo paese. Purtroppo, anzi che per fare questo e torna a Napoli, no? Torna a Napoli. Torna a Napoli e un Rolex di meno tu avrai. No, ma perché torna a Napoli? Quelli come te che sono venuti al sud industriale si sono mangiati tutto il sud. Io stavo a Napoli, non venivo qua a Milano. Si sono mangiati tutto il sud. Ma certo. dai. Ma chi se l'ha mangiato? Ma perché non vai a Napoli? Perché c'è sempre questo vittimismo? Scusami, amico mio, ma che vuol dire? Anche le tue azioni nel nord verde che pagavano le notizie a 0,0 e poi. Che ne so, si è scatenato, non si capisce il senso. Puoi tornare a Napoli e fare, per esempio, il parcheggiatore abusivo. Quello è buono, un mestiere abbastanza profittevole, dicono, no? Torna a Napoli così a fare il posteggiatore abusivo. Ma è riconosciuto battuta. Come mestiere ufficiale, pur non essendo ufficiale, è riconosciuto, non ti succede tutto. Non è una battuta, devo perché ridere. È un mestiere come un altro. Scusi, professore, però. Perché? Professore. Finiamo qua. Professore. Ascolti un attimo. Sì. Io ti dico, sono di Napoli, io ti dico che a Napoli purtroppo ci sono due Napoli. Sì. Una che si sveglia la mattina, sì, e va a lavorare. No, fai parlare Parenzo, non fare il professore universitario. Lascia passare Parenzo. Io voglio capire questo, scusami professore, voglio capire questo. Perché professore, perché che sei il dito, lo fai ridere, mamma, come si brutto, ma sarai bello tu, sarai bello tu, cornuto d'un cornuto, sarai bello tu, cornuto d'un cornuto, decido a te, sono Mickey Luke quando era giovane, sì, ricordati, Kevin Costner, la faccia tua. Scusi, ciao, professore. Ciao professore, ciao, ti saluto, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, cornuto, ciao, ciao, ciao. David! E dottor Leola, doppio lavoro? Andato la 7 da dottore Cailo, non può più parlare con miserabili, Radio 24. Vabbè, fare in culo. Pasqua! Pasqua, chi cazzo pronto? È sto? Pasqua, chi è Pasqua? Ciao! Provincia pronto? Di Bari, che sei? Femmina, che sei? Sono io, sono Pasqua. Pasqua. Mi senti? Allora. No, no, aspetta, fermi lì. Quanti anni hai? 25. 25, ma sei donna? Sono donna. Pasqua, come cavolo fa uno a chiamarsi Pasqua? Pasqua, vabbè. Pasqua e mi faccio Coniglio di cognome. Sì, vabbè. E poi che fai di... Te volevo dire... Secondo nome qual è? Natale, qual è? Cioè, dai, su. Te volevo dire una cosa incredibile che mi è accaduta oggi, mi devi dare una spiegazione. Sì, sicuramente ci credo, guarda, al 100% ci credo, guarda, 100%. Allora, 100%. Stavo visto come ti sei presentata, visto come ti sei presentata, ci credo, guarda, sono lì, ci credo alla grande. È una cosa bella, te la voglio dimmi, dire. Dimmi. Allora sono in autostrada, sì, e cambiavo 6 canali alla radio. Sì, a certo, un certo punto ho sentito un tonfo, sai, di quelli della stalla, no? Che entrano dentro la macchina. Una parla pensato... italiano, che cosa dice? Un odore, una puzza? Il tanfo. E mi sono accorta proprio quando ho messo sul tuo canale della tua trasmissione, oddio mio, ma che ti scorreggia il cervello, ma... e che sei capace di questi poteri di entrare dentro sto parlante, ma è stupendo, amica mia. A parte che questa ironia è patetica, però se fosse vero avremmo questo straordinario merito, cioè di trasferire fenomeno, mi raccomando, con due N, di trasferire dalla radio alcuni odori, anche infatti fetidi, nelle macchine. Meraviglioso Pasqua, meraviglioso. Sì. Poi mi sono messa a mangiare un panino della merda, ho detto che mi piace tanto Fabrizio Giuseppo Bruciani. Bravo. Giuseppe da Brescia, ciao imbecille, ciao Giuseppe da Brescia, vai. Dimmi. Sì, pronto? Dimmi. Buonasera, scusate, volevo intervenire perché volevo commentare una notizia che ho letto su Dagospia, che so che apprezzi, che apprezzate, la vostra trasmissione è apprezzata. Cosa apprezzate? Si parlava della prostituzione Dagospia. Sì, allora? Allora, si parlava della prostituzione minorile di queste immigrate sulla Domiziana. E la cosa che mi ha interessato e che mi ha colpito è che le intercettazioni delle organizzazioni dicevano che si preoccupavano che sembrassero evidentemente delle minorenni. Allora, come si può, diciamo così, giustificare un cliente italiano che verosimilmente si accorge dell'età minore della prostituta e comunque ne usufruisce? Amico mio, che cosa ti devo dire io? Cioè, io non sono mai andato a prostitute sulla strada, ho frequentato solamente per 3 volte bordelli nella mia vita, e più per curiosità che per esigenze, diciamo, fisiche, ma anche per divertimento, naturalmente. Non prenderei mai una mignotta per strada, ma semplicemente perché non me va, cioè, almeno fino a questo momento. Poi mai dire mai, naturalmente. E come fare a distinguere? Che cazzo ne so io? Cioè, uno la guarda in faccia e che vuoi che ti dica? E non è che uno gli può chiedere la carta d'identità. Anche il marito della Mussolini non chiedeva la carta d'identità, eppure è stato condannato. Quindi non è che serve ha patteggiato di fatto riconoscere la in alcuni casi sì, in altri no, ma certamente. Ma qual è il punto? Non ho capito. No, il punto non ho capito qual è la questione, che cosa mi stai chiedendo, non ho capito. No, penso che non si possono giustificare clienti sulla strada che si rendono conto che in realtà, come si rendono conto gli attori... Ma cosa vuoi che ti dica? Come fai a renderti conto se uno è minorenne o no? Si vede cosa? Ma non è detto, ma che ne sai? Se l'organizzazione criminale si preoccupa che sia evidente che siano minorenni, come fa il cliente a non dire cazzate, spesso non te ne accorgi, dai. Ma non è questo, con questo non voglio giustificare nulla, se poi ci sono delle persone che vanno apposta con le minorenni o con delle minori o con delle ragazze molto piccole perché sono malati di mente, però non capisco, uno non ferma una persona, Giuseppe, per strada e riconosci che è minorenne, Giuseppe, che una ragazza di 12 ma non anni, ho capito che cosa vuoi dire riconosce. Ma cosa? Certo che di 12 anni probabilmente la riconosci, certo che non si può giustificare. Ma chi ha detto che giustifica? Chi ha detto che voglio giustificare qualcuno che va con delle minorenni? Spiegami perché dovrei. Ma non si possono giustificare anche se non chiedono i documenti. Ma ho capito cosa vuol dire, ma come fai a. Giustificazione. Ma se vai per strada e chiaramente se vedi un bambino o una bambina e te la porti in macchina, sei un criminale. Ma ci sono delle persone che sembrano più adulte, magari sono 17 anni, 16 anni. Ma 13 anni, d'accordo, ma certo, 13 anni. Dice il contrario, stai facendo un esempio limite, no? C'è un caso limite. Ma non è limite perché si parla di decine di ragazze sulla Domiziana, non è limite. Ragazzi, amico mio, se sulla Domiziana c'è un problema di minorenni, intervenga la polizia. C'è sulla Domiziana, dici tu, c'è un problema di prostitute minorenni, evidentemente minorenni che battono. Compie un reato, ma chi dice di no? Ma stai dicendo delle cose ovvie. Qual è il punto? Non ho capito. Perché stai dicendo, intervenendo, dicendo delle cose ovvie, che non è una cosa positiva andare con le minorenni. D'accordo. Ho detto che non si può giustificare chiunque vada per strada, cioè legittimare chiunque vada per strada. Io non sto legittimando nessuno. Chi va per strada a prostitute, nel 99% dei casi ci va con una maggiorenne. Se succede che vanno apposta con le minorenni in un posto che si sa è, come dire, frequentato da minorenni, intervenga la polizia, le forze dell'ordine, i carabinieri, la guardia di finanza, non so, a porre fine a questo mercato di prostitute anche minorenni. Se sei cliente consapevole del fatto che queste qua sono minorenni in un posto, in un luogo battuto da minorenni, come la fai a determinare? Vabbè, ma che cazzo me ne frega, ma che sono giudice io? Amico mio, ma mi poni delle questioni assurde, cioè come faccio a sapere che sono minorenni? Non ci sono mai andato. Voglio dire che prendere sulla strada non può essere una giustificazione per dire nel 99,9% dei casi quando prendi qualcuno sulla strada minorenne non è. Questo mi pare evidente. Se ci sono, la Domiziana. Ma come fai a saperlo? Ci sei andato? No, hai frequentato? Se lo sanno i giornalisti, tanto da pubblicare l'articolo, io immagino che le forze dell'ordine o chi per loro sappia benissimo che sulla Domiziana c'è un traffico di minorenni, intervengano a porre fine a questo traffico clienti, di minorenni. Anche sui clienti. Ma intervengono anche sui clienti in quel momento se sono consapevoli, non va benissimo tutto. Ma che sei malato? Vuoi prendere in mano i manuali di diritto penale? Ma che cazzo me ne frega a me? Intervengano la polizia e stabilisca se uno è consapevole o no che vado con una minorenne. Ma che vuoi da me? Ciao. Allora ragazzi, in questi giorni cosa è successo? Come sapete, nel calcio c'è stato questo grande trasferimento di Bonucci dalla Juventus al Milan. Alcuni tifosi della Juventus però prima del trasferimento avevano appena acquistato la maglia con numero 19 di Bonucci, la maglia della Juventus. Alcuni sono incazzati come bestie perché vogliono indietro i soldi, vogliono cambiare la maglia, vogliono metterci un altro nome. Hanno trovato un muro, soprattutto non si capisce un cazzo. Alcuni dicono, ragazzi miei, il Codacons, addirittura questo mi sembra esagerato, il Codacons interviene, vuole intervenire per cambiare, per imporre alla Juventus di cambiare il numero, di cambiare la maglia a questi tifosi. Ovviamente un tifoso della Juve ci ha mandato questo audio, sentite, sconcertato dopo aver fatto il giro degli Juventus Store. Juventus, buongiorno. Sì, buonasera, volevo chiedere un'informazione. Sì. Mio figlio ha comprato la maglietta di Bonucci. Sì. E allora mi sembra giusto che rimborsiate questo ragazzo oppure sostituite la maglietta di quel traditore di Bonucci con quella di Chiellini. Io ma quella che deve chiamare la società, non noi. Cioè, finché la società non ci dice che possiamo cambiarla, non possiamo fare niente. Vabbè, ma cosa c'entra? Se la Juve decide di vendere i suoi giocatori, allora ecco, non posso fare nulla, nel senso. Allora, mi spieghi cosa devo fare, perché io vado avanti, perché non è giusto che... La borsa deve scrivere alla Juve, se io lavoro per la Juve, però se la Juve mi dice non si cambia, io non posso cambiare, cioè vado nei casini io, capisci? Allora protesterò con la Juventus. Juventus Fan Service vi dà il benvenuto. Benvenuto Juventus, sono Alessandro, rispondo dall'Italia, come posso aiutarla? Sì, buonasera Alessandro, senta, io ho appena chiamato lo Juventus Store, quello di Corso Europa a Milano, sì? Perché mio figlio ha comperato la maglietta di quel traditore di Bonucci. Mi perdoni se la interrompo. Noi non ci occupiamo direttamente dello Juventus Store, no? Io comprendo... Cioè, è nel nostro diritto avere un rimborso o la sostituzione di quella maglietta? Questo lo deve verificare direttamente con lo Juventus Store, non con noi. Non che non voglia aiutarla, ci mancherebbe altro, ma non ci occupiamo proprio di questo. Ecco, mi perdoni una cosa. Lo Juventus Prego. Store mi ha detto di chiamare voi perché loro non si occupano, perché la Juventus che deve dire. Voi mi dite che devo... Allora è un reciproco scaricabarile. No. Se lei fa una rimostranza alla Juventus Store, è lo Juventus Store che se ne deve occupare. Ora, quando lei ha acquistato la maglia, Bonucci era ancora in forza alla Juventus. Sì, ma non lo è più e non è certo colpa mia. Cioè, sarà stata una scelta della Juventus se lo ha ceduto al Milan. Non mi rendo conto, però nel momento in cui lei ha fatto l'acquisto, il giocatore era in forza. Allora, per ogni giocatore che fa un cambio di casacca, dobbiamo ritirare le maglie che sono state vendute. Beh, assolutamente sì, perché io, cioè, da tifoso, me della maglietta di Bonucci, che adesso gioca col Milan, non me ne frega assolutamente niente. Ok. Juventus Store, buongiorno. Mio figlio ha comperato la maglietta di Bonucci. Ritengo giusto che questa maglietta mi venga rimborsata o tutt'al più sostituita con un'altra. Non possiamo rimborsargliela, se il negozio non ha assolutamente nessuna colpa di questo. Io più che mettere l'informativa in cui le dico che la maglia non viene cambiata una volta personalizzata, se scegliete di personalizzarla non è di sicuro colpa del negozio. L'informativa è visibile di fianco alla cassa, bastava leggerla e uno capiva benissimo che la responsabilità era direttamente del cliente e non del negozio. Va bene signorina, buonasera. Grazie, arrivederci. Giustamente questo è sconcertato, ragazzi, cioè almeno date un'indicazione chiara al di là del Codacons, che non si preoccupasse di cose più serie. Ma insomma, uno compra una maglietta, almeno ditegli cosa deve fare, no? Cioè, se è possibile rimborsarla, non è possibile rimborsarla. Gente incazzata, dai. Marco dalla provincia di Macerata, intanto voglio leggervi un'altra supercazzola del signor Diego Fusaro. Verrà un giorno in cui dal futuro si chiederanno perché accadde che la sinistra abbandonò completamente i lavoratori al macello per occuparsi solo di pagliacci sui trampoli, ai gay pride, migranti, femministe isteriche, vegani assatanati, antifascismo in assenza di fascismo. Ripeto, se avete capito qualcosa, verrà un giorno in cui dal futuro si chiederanno perché accadde che la sinistra abbandonò completamente i lavoratori al macello per occuparsi solo di pagliacci sui trampoli e gay pride, migranti, femministe isteriche, vegani assatanati, antifascismo in assenza di fascismo. Forse in realtà, risentendola, rileggendola, è una delle più lucide del signor Fusaro. Marco, provincia di Macerata, vai. Pronto? Vai, dimmi. Allora Giuseppe, io volevo sapere una cosa. Sì. Tu sei sposato? Sono stato, sì. Sono stato. Allora io volevo sapere, a proposito della prostituzione, sì, dato che hai avvalorato il discorso che chi va a prostitute, cioè è un'esperienza che va fatta. Sì. Io ho detto semplicemente che almeno una volta nella vita uno, insomma, deve andare a prostitute per rendersi conto di quello che è, o no? Va bene, allora io vorrei sapere... Tu sei mai andato a puttare, quanti anni hai? Quanti anni hai? Io 47, non ci sono mai andato. E vabbè, ma una volta va, uno ci va, no, una volta fa una purità, non voglio fare purità. Vabbè, purità, non ci vuoi non andare, sapere, vabbè, ma è legittimo anche non andarci. Tutti gli uomini che in Italia fanno questa pratica. Fanno questa pratica. Tornando a casa, milioni, 9 milioni pare. Ok, 9 milioni, se dato che critichiamo i talebani che trattano male le donne, se tornando a casa tornassero le mogli dopo essere state in un bordello a farsi scopare e inchiappettare a destra e a manca, come reagirebbero gli uomini italiani? C'entra? Cosa c'entra questo con andare a mignotte? Scusa, cosa c'entra con andare a puttane? Se lo facessero le nostre donne, che cosa ne penserebbero? Vabbè, se qualche donna affitta un prostituto, ci sono anche dei gigolò, l'abbiamo anche intervistati qui, se qualche donna volesse ci sono 9 affittare... milioni di italiani che lo fanno, gli italiani dovrebbero pure farsi un po'... esame di coscienza sto ma punto. In che senso? Non ho capito, uomini, ma non ho capito, ma davvero non ho capito questo paragone che fai, che cazzo c'entra? Non ho capito, cioè, cosa dato che la sponsorizziamo tanto questa pratica, ma io non la sponsorizzo, io dico semplicemente che non sopporto il moralismo che si fa sulla prostituzione, sul fatto che le persone, non poniamola in maniera, ma per me ci dovrebbero andare anche le donne, molte donne si potrebbero tranquillamente affittare ogni tanto un prostituto per farsi una bella trombata, non ci sarebbe niente di strano, lo troverei una cosa sana da un certo punto di vista. Cioè qualcuno lo fa, delle MILF, delle persone, non solo MILF, affittano per una sera una specie di gigolò e vanno a gigolò, qual è il punto? Non ho capito. Sì, poi ci sono anche quelle che lo fanno, però siccome la pratica è molto usuale nell'uomo, vorrei che poi ci ponessimo questa domanda, se lo facessero le nostre mogli che cosa... Non è una cazzata quella che dici tu, cioè, vabbè. Una minchiata. Ciao tesoro, ciao. A domani ragazzi, ciao. Crucia Sinalota. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. E a me non me ne frega niente.